25 aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus. Trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini. La storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. Benvenuti alla terza puntata della maratona di lettura con La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini. In questa terza puntata entriamo nel vivo del libro. Partiamo subito con il riassunto fatto dallo stesso autore, Massimiliano Gollini, delle puntate precedenti. La carezza e la mitraglia. Riassunto. Un uomo torna dalla guerra. Arriva alla stazione dei treni e a stento riconosce la sua città. Con sé non porta nulla, tranne i suoi ricordi e una promessa, che ancora non conosciamo. Nell'ultimo mese di conflitto, Anima ripensa com'è arrivata fin lì sulla montagna, alla guerriglia partigiana, ai morti per mano dei tedeschi. Giù al casolare, Walter Reder e le sue SS stanno pianificando la loro fuga. Trasformano camionette militari in automezzi civili. Anima è arrivata appena in tempo. È sola, ma non ha paura. La guerra finirà dopo che avrà ucciso Reder. Elena, Albertina e Odino sono diventati amici e formano un gruppo coeso. Ogni giovedì, di nascosto alla famiglia di orientamento fascista, Elena ritrova gli amici a casa di Albertina. Insegna a scrivere a Odino e fa lezione ad Albertina perché è ebrea e le leggi razziali le impediscono di frequentare la scuola. Tra Elena e Odino nasce un sentimento forte, ma il 6 ottobre 1939 Odino comunica a Elena che ha ricevuto la chiamata di leva e deve partire per Addis Abeba. I due passano la notte accampati ai giardini pubblici e promettono di rincontrarsi quando tutto sarà finito. Gli anni passano. Sullo sfondo di una città bombardata, Elena inizia il suo percorso antifascista. Conosce Silvano, membro del Partito Comunista, e con lui diffonde stampa clandestina. Elena nasconde questa attività alla famiglia, ma non alla madre, con la quale ha un rapporto aperto. Nel frattempo, le lettere di Odino arrivano sempre più raramente e la condizione di vita di Albertina continua a peggiorare. Poi arriva l'8 settembre 1943. La carezza e la mitraglia. Legge Sara Nanni. 17 aprile 1945, martedì, ore 13:33. Anima. Quando si rese conto di quello che stava accadendo, era ormai troppo tardi. Sferrò una pedata al calcio del fucile facendolo cadere accanto alla roccia. L'arma iniziò a scivolare nel fango verso valle e si fermò a 5 metri più in basso, in un avvallamento del terreno. Nel frattempo infilò la mano sinistra nello zaino, impugnò la pistola, tolse la sicura e caricò il cane. Tre soldati scendevano da destra, in ordine sparso. Dovevano essere usciti dal bosco nel punto esatto da cui era arrivata quella mattina, perché seguivano la stessa direzione. Erano fradici e si trascinavano con fatica dentro quelle divise bagnate e pesanti. Sembravano stanchi. Due di loro erano molto giovani, al massimo 20 anni, mentre il terzo poteva averne anche 35. Immediatamente riconobbe l'uniforme. Non c'erano dubbi, erano SS. Come poteva essere stata così stupida? 2 anni di guerriglia non aveva imparato niente. Avrebbe dovuto posizionarsi più in alto per avere la visuale completa di tutta la valle, ma aveva voluto avvicinarsi per un eccesso di insicurezza che ora stava pagando. Calcolò la distanza che li divideva, erano al massimo 30 metri, e per i tre soldati il terreno era in discesa. Guardò la linea di fuga prevista dal piano, nel bosco, dall'altro lato. Lei correva veloce, non aveva zavorre, e i suoi vestiti, anche se bagnati, le avrebbero comunque garantito movimenti agili. Se si fosse mossa subito, sarebbe riuscita a infilarsi nel bosco prima che i soldati iniziassero a sparare. Il fiato le si annodò nel petto. Strinse forte la pistola e si assicurò che nello zaino non ci fossero ostacoli che le impedissero di estrarla velocemente. Con la mano destra prese dalla tasca esterna 2 caricatori e se li infilò nel giubbotto. I tre si fermarono appena fuori dal bosco, si guardarono attorno, dissero qualcosa e si passarono una borraccia. Dovevano aver camminato tutto il giorno perché davano l'idea di essere privi di forze. Si domandò da dove venissero e cercò di ricostruire il senso di tutta quella situazione. I tedeschi giù nel casolare stavano preparando una fuga ben organizzata. Erano pronti e presto sarebbero partiti. Probabilmente avevano comunicato via radio a qualche comando che l'operazione si sarebbe chiusa quello stesso giorno, e il messaggio forse aveva messo in moto le 3 SS. Comunque fossero andate le cose, adesso si trovava tra 2 fuochi. Si concesse un attimo prima di agire. Di certo non sarebbe scappata. Se l'avesse fatto si sarebbe salvata, ma non avrebbe ucciso Reder. E allora tutta quella situazione, il viaggio notturno, l'appostamento, la guerriglia, tutte le morti innocenti sarebbero andate perdute insieme al suo orgoglio e al rispetto per se stessa. Non poteva farlo, neanche a pensarci. Piuttosto preferiva morire. Cosa probabile in quel pomeriggio, ma non avrebbe mai abbandonato il campo. Quindi doveva nascondersi e sperare che passassero senza vederla. Doveva diventare invisibile, essere una cosa sola con il paesaggio, trasformarsi nella terra infangata sulla quale era seduta. Una follia pensare di farla franca, ma ci provò. Estrasse la Walther P38 e la passò nella mano destra, mentre con la sinistra fece scivolare lo zaino sul lato coperto del faggio, nella speranza che quel vecchio tronco fosse abbastanza grande per nasconderlo alla vista. Si girò pancia all'aria e sfruttando il fango scivolò verso valle finché non raggiunse il masso di granito. Sentì la terra bagnata infilarsi sotto il giubbino e quando raggiunse la pelle della schiena un brivido intenso le fece vibrare le spalle. Puntò gli scarponi e si girò ventre a terra allungando le braccia in avanti. Sperò con tutto il cuore che quei pochi metri di slittamento nel fango avessero sporcato il giubbotto quanto bastava. Era l'unica possibilità che aveva. Cercò di non pensare al freddo, al fango appiccicato alla schiena e alla pancia, al fiato incerto che le impediva di tenere sotto controllo il ritmo cardiaco. Chiuse gli occhi e scavò dentro di sé per trovare il coraggio di affrontare anche quella situazione. Impugnò la pistola con entrambe le mani e mise nel mirino il soldato più anziano. Vedeva la sua nuca grande come la luna. Aspettò l'evolversi della situazione per qualche istante. Poi i soldati si voltarono e guardarono dalla sua parte. carezza e la mitraglia. Legge, Licia Campagna. Settembre 1943, sabato, Elena. Poche ore dopo l'armistizio, la 3ª Panzergrenadier Division, comandata dal Federmaresciallo Kesserling, aveva occupato Roma. Il re e Badoglio presero la via Tiburtina e lasciarono la capitale, mentre i militari italiani erano così disorientati che non opposero resistenza, lasciando il passo all'esercito tedesco. Senza rendersene veramente conto, all'alba del 9 settembre l'Italia si era svegliata colonia tedesca. Quello fu anche il giorno in cui l'autunno portò via l'aria stanca dell'estate. Te ne accorgevi dalla luce tagliente, dalle improvvise correnti fresche, dalle nuvole alte che correvano pure in assenza di vento. Fu un autunno impreciso e fosco, un susseguirsi di mesi in rapida successione. Una stagione di passaggio che portò all'inverno con troppa irruenza. Elena prese la bicicletta di prima mattina e spinse sui pedali con forza. Dopo l'armistizio non era più andata in centro e non aveva più affrontato azioni con Silvano. Per evitare contatti con il padre se ne stava chiusa in camera e ne usciva solo per far visita a Maria. Le attività del fronte per la pace e la libertà erano rallentate perché si voleva capire quale indirizzo avrebbe preso l'Italia dopo l'8 settembre. C'era bisogno di riorganizzarsi. Quella mattina però aveva un appuntamento. Uscì di casa e si lasciò trasportare dalla leggera discesa che portava alla strada provinciale, dalla quale sarebbe poi arrivata in città. Procedeva nella direzione opposta a quella seguita quando aveva conosciuto Dino, giù al molo. Ripensò a quel momento, allo stupore provato nel vedere quel ragazzino così sicuro di sé, al brivido che la prese quando le tolse la scheggia dal piede. Non passava giorno senza che si sfiorasse quella cicatrice. Erano ricordi piacevoli che fino a qualche settimana prima suscitavano in lei un po' di malinconia. Ma le cose erano cambiate. Dopo la visione di Odino nell'oceano, il mondo aveva assunto un'immagine diversa, più comprensibile. Entrò in città dal lato di Porta Lame. La luce non riusciva a dare una dimensione a tutto ciò che vedeva pedalando. C'erano ombre e angoli nascosti, vuoti che non poteva colmare neanche con l'immaginazione. Era una città diversa, con meno gente per le strade e con più paura diffusa. Sentimento vigliacco, la paura. Era lì ad aspettarla, incurante della voglia di vivere i suoi 19 anni, della voglia di restare aggrappata al manubrio di quella bicicletta da uomo e poi correre via, senza pensare a niente in particolare. Un posto di blocco le impedì di proseguire. Scorse la camionetta tedesca in fondo a via Zanardi, proprio dove la strada incrociava i viali. Si fermò di lato per guardare meglio la scena e decidere cosa fare. C'erano due soldati con il mitra in mano. Indossavano lunghi impermeabili verde scuro. Si guardavano in giro senza dare segni di preoccupazione. «Dove sta andando, bella signorina?» le domandò il militare che aveva di fronte. Conosceva l'italiano, almeno un poco, mentre lei non sapeva neanche una parola di tedesco. «Vado al mercato. Sola? No, mi aspetta un'amica». «E da dove vieni?» «Vengo da casa mia, fuori dal centro, in campagna». Il secondo militare si avvicinò e scambiò un'occhiata compiacente con il suo camerata. Non erano altro che due ragazzi che scherzavano con una loro coetanea. Quello che parlava poteva essere avere 25 anni, l'altro meno. Decise di stare al gioco e disse: «E voi? Fermate tutte le ragazze che passano da qui?» I due si guardarono quasi intimoriti, poi si sciolsero in una risata. «Tu, italiana, molto carina, lo sai?» «Certo che lo so», disse Elena. «Ah, molto furba tu, vero? Molto schön, come si dice? Simpatica. Da dove venite, soldati?» «Io vengo da Stuttgart, lui è di Berlin, vicino a Berlin. Non parla italiano lui. E tu invece? Come mai lo sai?» «Scuola, poi sono stato a Bolzen, sì? Bolzano? Jawohl, Bolzano. Qualche mese, non bene italiano, ma un po'. Sei meglio tu l'italiano di quanto io non sappia il tedesco. Il soldato la guardò, dando l'impressione di non aver capito il senso della frase. Mentre stava per dire qualcosa, il camerata lo prese per un braccio e gli parlò in tedesco. I due discussero per un po', poi il soldato più vecchio si girò verso di lei e chiese: «Come ti chiami?» «Elena», rispose. «Tu?» «Elena è il tuo nome? O un nome falso, eh?» Si era fatto serio, ma non riusciva a essere severo. «Certo che è il mio nome, che domande!» «Cosa ha lì, eh? Come? Nascondi qualcosa?» «Sotto la gonna?» chiese. Chissà cosa gli aveva fatto insospettire. Scese e sistemò il pedale destro in modo che sorreggesse la bicicletta, appoggiandola al marciapiede. Fece due passi verso i soldati, prese l'orlo della gonna con entrambe le mani e disse: «Qui sotto nascondo delle bombe. Volete vedere?» I due indietreggiarono e il più giovane colpì il paraurti della camionetta con il polpaccio, finendo a gambe all'aria. La tensione si sciolse e il soldato che parlava italiano iniziò una fragorosa risata da osteria. Senza aggiungere altro, Elena prese la bicicletta e proseguì la sua strada. Albertina aveva un'aria spensierata, leggera, fatta di camicia a fiori, capelli sciolti e gonna di cotone rosso. Ogni volta era una sorpresa vederla così allegra, nonostante la vita che era costretta a fare. Sistemò la bicicletta in una rastrelliera e prese l'amica a braccetto. Il mercato si estendeva per tutto il perimetro di piazza 8 Agosto e proseguiva fino in via Indipendenza. Potevi trovare di tutto, ma quando la guerra era iniziata si vendevano soprattutto generi alimentari. Pane, uova, vino. C'era poca carne, ma in compenso moltissima verdura. In quei giorni, chiunque avesse un orto portava una cassetta di verdura e cercava di venderla al mercato della piazzola. Iniziarono a camminare tra i banchi, avvolte dal vocio della gente, puntando lo sguardo sui pochi capi di abbigliamento che riuscirono a trovare. Era la prima volta che andavano al mercato da sole, libere di muoversi come volevano, di seguire il loro ritmo, assecondando il segreto accordo che li univa da tempo. Camminarono per tutta la mattina, scherzando, raccontandosi cose leggere, senza pensare a nulla in particolare, godendosi il delicato fluire del tempo trascorso insieme. Poi si fermarono in un bar per prendere qualcosa da bere, due bicchieri di cedrata. «Come va con tuo padre?» domandò Albertina. «Non parlarmene. Ah, è andato fuori di testa? Sono tutti andati fuori di testa, Tina, tutti. Non si capisce più niente. Poveracci, poveracci, è il minimo. Hai sentito di Mussolini? È mio papà che sta attento a queste cose. Io cerco di non ascoltare. Beh, è tornato tra noi. Cosa vuole fare? Non ho capito, ma fidati, la nostra battaglia non è ancora finita». Elena pensò che forse non era la mattina giusta per parlare di certe cose, ma in quei giorni non potevi evitare certi argomenti. Una signora con un enorme seno e una pancia rotonda passò davanti a loro, tenendo al guinzaglio un cagnolino. Quando vide Albertina, si girò e sollevò il mento. «In famiglia sono tutti molto preoccupati», disse Tina senza curarsi della donna. «Le notizie che arrivano dalla Germania sono tremende. I tedeschi fanno paura». «Non bisogna avere paura. Non è facile. Mi chiedo se tutto questo finirà». «Certo che finirà. Ti vedi ancora con il gruppo? Stiamo ripartendo, ma non parliamone adesso». «Certo, volevo solo sapere se eravate ancora attivi. Mi rassicura sapere che non vi fermate». Ogni tanto una pattuglia di tedeschi attraversava la piazza proprio lì davanti, ma loro non ci fecero caso. Erano così prese da quella giornata di sole che il resto passava in secondo piano. «Quando anche Odino sarà tornato, verremo qui a bere cedrata e guardare la gente passare», disse Albertina. «Puoi contarci. E se vediamo un tedesco, gli facciamo lo sgambetto. Ah ah, vedrai. Un momento. Ma dopo non ci saranno più tedeschi? Beh, qualcuno ci sarà pure. Magari in vacanza. Cavolo, non vedo l'ora. Non vedo l'ora che venga dopo». Guardò Albertina e le sorrise. Era questo che amava di lei, quell'ottimismo sottile e costante, quella incondizionata voglia di vivere. le strinse una mano e con l'altra si portò il bicchiere di cedrata alla bocca. «Sei mai andata al mercato con lui?» domandò Tina. «Un giorno siamo venuti qui in bicicletta, mi ha caricata, ma non c'era il mercato». «Davvero? Non me l'hai mai detto?» «Lo so». «E cos'è successo? Che giro avete fatto?» «È stato dopo una lezione a casa tua, di pomeriggio. Ti ricordi le nostre lezioni? Era maggio. Mi ha chiesto se mi andava di fare un giro. Guidava la bici come se fosse una moto. È stata una cosa bellissima, ecco. Se ci penso adesso provo la stessa sensazione. È un ricordo che mi libera la mente. È come se fossi ancora lì, aggrappata a quel manubrio. Abbiamo attraversato la città da casa tua fin qui. Piazza San Francesco, via del Pratello. Siamo stati bene. E poi ha cercato di baciarmi. Scherzi, proprio lì, in mezzo alla piazza. Davvero, e tu? Ho fatto finta di non accorgermene e mi sono girata dall'altra parte. Sono stata una stupida. Perché? Hai fatto bene con tutta la gente. Figurati, invece avrei dovuto baciarlo, saltargli al collo e non mollarlo più. Ecco quello che avrei dovuto fare. Abbiamo avuto così poco tempo. Ma lì non potevo saperlo e non me la sono sentita. Albertina beve un sorso di cedrata e con il bicchiere ancora in mano disse: «È passato un secolo, come fai a ricordarti di lui? Perché io non riesco. Faccio fatica a ricordare le espressioni del suo viso o com'era pettinato, per esempio. Ogni tanto mi sento in colpa». «Non devi fare così», la rincuorò Elena. «È normale e capita anche a me. C'è il tempo di mezzo, ma c'è anche lo spazio. Cioè? Se fosse, che ne so, a Roma, sarebbe diverso. Avresti la sensazione di poter prendere un treno e andare giù a cercarlo. Ma lui è in Africa, capisci? C'è un mare di mezzo, è un deserto». «Non ci avevo pensato. Io sì. Ogni tanto l'impressione è che il pensiero faccia fatica ad arrivare fin là, che parta da me molto forte, ma poi perde energia in volo e quando arriva, giù, è fragile». Albertina si grattò la testa con l'espressione di chi è in cerca di qualche idea, senza trovarne alcuna. Così restò in silenzio ad ascoltare. «È come se ci fossero altri sensi, oltre a quelli che conosciamo», continuò Elena. «Non so bene, c'è un legame tra noi, qualcosa che non vedi, ma sai che c'è. E ti basta un particolare qualsiasi per riportare tutto alla memoria. Ecco, e poi io lo vedo. Ogni tanto, lo sai». Albertina beve un lungo sorso di cedrata e poi disse: «Ti invidio, molto. Ma cosa dici? Invece sì, sei una che ascolta le proprie emozioni. Ma non facciamo tutti così, più o meno? Forse o forse no? Beh, no. Credo di no». Elena si allungò e le diede un bacio nel punto esatto in cui la bocca finisce e inizia la guancia. Le appoggiò la mano aperta sulla nuca e la tenne stretta a sé, assaporando il suo profumo, l'odore dei capelli appena lavati, dell'aria fresca di quell'estate in chiusura. Il bacio durò un'eternità. Era come se le labbra si fossero incollate alla pelle di Albertina, come se finalmente avessero trovato il posto giusto dove riposare un po', dopo tanto tempo. E l'amica ricambiò. Si lasciò trascinare verso di lei, allungò il braccio sinistro e circondò la vita di Elena come se fosse l'equatore. In quell'abbraccio c'era la lontananza dei rispettivi mondi che soccombeva sotto il peso della felicità. C'era la certezza che nulla tra loro sarebbe mai cambiato, che avrebbero avuto il tempo di fare tutto, di aspettare e ricominciare, di far ripartire la musica, di rimettere a posto le cose e guidarle verso territori sicuri, il tempo di non essere più tristi. Ma l'abbraccio si sciolse. Concluse il suo volo e atterrò lì, sul tavolino, proprio tra due bicchieri di cedrata. E quando alla fine le due ragazze si staccarono per appoggiarsi allo schienale delle sedie, scoppiò la bomba. Non avevano sentito il rumore degli aerei, nessuno li aveva sentiti e nessun allarme aveva suonato. Arrivò solo l'esplosione. La bomba cadde sul tetto del palazzo dall'altra parte della piazza, ne fece crollare la facciata, mentre tutto il lato nord rovinò sul cantiere della casa Littoria in costruzione, ma sospeso per lo scoppio della guerra. Il frastuono fu dirompente. si alzò una nube di fumo che oscurò il sole e tutti iniziarono a correre. Sopra l'eco della bomba, le grida della gente, il panico che si ascoltava rimbalzare tra i muri delle case, si iniziò a percepire il rombo dei quadrimotori da alta quota. Ci fu un attimo in cui la gente si fermò per guardare il cielo. Uno stormo di bombardieri stava passando sopra la città, liberando il suo carico sul centro, apparentemente senza un obiettivo preciso. Elena si trovò a pensare al cinismo di quella situazione. Si immaginava i piloti, i militari sugli aerei, le persone che miravano e quelle che aprivano i portelli. Stavano vedendo giù di sotto, si rendevano conto che non c'erano tedeschi lì in giro, che non c'erano basi militari, arsenali, ma solo gente al mercato. Le bombe arrivarono, una dopo l'altra. Iniziarono a cadere attorno alle due torri e continuarono seguendo una linea retta che giunse fino alla stazione. Attraversarono la piazza, sorvolarono il mercato e colpirono il bar dove erano sedute. La terra tremò come se dovesse sprofondare. Ci fu paura e poi il buio. Aveva una scheggia piantata nella spalla sinistra. Entrava proprio sotto la clavicola e usciva sulla schiena, di lato la scapola. Era un pezzo di lamiera proveniente forse da una bancarella. Era frastornata e incredula. E quando provò ad alzare il braccio, una fitta partì dalla spina dorsale e arrivò fino alle punte delle dita. Invece Albertina era caduta e il tavolo le si era ribaltato addosso. Aveva qualche escoriazione sulle gambe e sulla fronte, ma non sembrava sofferente. Era soprattutto disorientata e si guardava attorno per cercare qualche punto di riferimento. La gente correva ovunque, si calpestava, si spingeva. Un anziano, fermo nel flusso, fu scaraventato a terra e sparì sotto il peso di centinaia di persone in corsa. Elena prese Albertina per il colletto e la trascinò indietro, allontanandola dalla zona in cui le persone correvano. Cercò di sollevarla, ma non aveva forza nel braccio e non riusciva a reggerne il peso. Urlò. Corsero verso la montagnola. Dopo una pausa di qualche minuto, un nuovo stormo di bombardieri stava arrivando dalla stessa direzione. Ancora non si vedevano, ma questa volta il rumore dei motori li precedeva. Elena e Albertina però erano veloci, si infilarono nei vuoti lasciati dalla gente in corsa, schivarono detriti e calcinacci, aggirarono voragini, svoltarono per vie indipendenze e proseguirono verso nord. Poco più avanti, dall'altra parte della strada, un taxi si era ribaltato e la parte anteriore era sommersa da una porzione di tetto precipitato dall'edificio lì accanto. Dentro la macchina, Elena vide l'autista riverso di lato, mentre sui sedili posteriori una donna, vestita elegantemente, teneva in braccio un barboncino bianco. Le bombe ripresero a cadere. Il palazzo dall'altra parte della strada crollò all'improvviso, alzando una nube di polvere, ricoprendo Elena di detriti. Non riusciva a respirare normalmente, forse per la corsa, forse per la scheggia che aveva piantata nel petto. Fece forza sulle mani e si rialzò. Doveva continuare a muoversi. Si guardò attorno. Sentì la voce di Albertina. Era qualche metro più indietro, incolume. La stava chiamando con le mani alla bocca. Si trascinò fino a lei. Poi ricominciarono a correre. Aggirarono le macerie del palazzo e raggiunsero il centro di via Indipendenza, dove una fiumana di persone urlanti si stava dirigendo al rifugio antiaereo scavato sotto la montagnola. Provarono a seguire il flusso, ma la folla era così violenta e impaurita che non riuscirono a imboccare la direzione giusta. Un'esplosione colpì il teatro diurno Arena del Sole, facendone crollare il lato nord su un tram in sosta. Non potevano raggiungere il rifugio, era troppo pericoloso e comunque non tutti avrebbero trovato posto. Elena si rese conto che l'unica via d'uscita era in fondo alla strada, ma dalla parte opposta. Prese Albertina per un braccio, indicandole l'altra direzione. Aveva dolori ovunque, respirava a fatica, sentiva le gambe cedere, ma tenne duro. Quando Tina capì l'idea di Elena, la superò e le fece da scudo contro la gente che stava correndo in direzione contraria. Voltarono a destra, presero per via De Monari, evitarono il caos, ma quando raggiunsero via Galliera, una bomba esplose su un gruppo di persone che stava correndo sotto il portico. sparirono da un momento all'altro, inghiottiti da una nube di polvere densa e maleodorante. Elena non riuscì più a vedere niente e il frastuono le fece perdere l'orientamento. Si sentì spingere da dietro, perse l'equilibrio, cadde in avanti, cercò di rialzarsi, ma non aveva le forze per farlo. Fu Albertina a sollevarla. Aveva la faccia insanguinata, ma occhi vigili. Senza curarsi di nulla, la afferrò per le ascelle e la tirò in piedi, poi riprese a correre, strattonandola per la camicetta. Salirono via Galliera e raggiunsero via Manzoni, dove girarono a sinistra, passando davanti alla casa del fascio. Il portone di Palazzo Fava era aperto, ma non c'era nessuno sulla soglia. Non era stato colpito dalle bombe e se ne stava lì, come se nulla fosse accaduto. Il caffè Beltrami era deserto. Le vetrine che davano su via Indipendenza erano rotte e gli stucchi che decoravano le pareti e il soffitto erano caduti sui tavolini e sui balconi espositivi. Oltrepassarono le sedie sparse ovunque e raggiunsero le cucine. C'erano armadi e scaffali riversi sul pavimento. Un silenzio profondo rendeva tutta la scena irreale. Un'altra bomba esplose poco distante, facendo tremare i muri. L'onda d'urto scaraventò le due ragazze a terra, mentre un pezzo di intonaco le colpì in testa. Elena si raggomitolò in un angolo e cercò di coprirsi il capo con le mani. Il dolore alla spalla era diventato così forte da impedirle di respirare. Vide Albertina raggiungere con un salto l'altra parte della stanza, fermandosi davanti a una grossa ghiacciaia rovesciata. Si appoggiò con la schiena contro la porta delle cantine e fece forza con le gambe. Appena riuscì a smuovere la grossa mole di metallo, tornò da lei e la trascinò al piano di sotto. Ci fu ancora il tempo per sentire una nuova esplosione. In quella stanza, buia e umida, le bombe sembravano ancora più vicine, più potenti. Elena pensò che non ce l'avrebbe fatta, ma non andò così. Sentì Albertina piegarle le gambe e con forza costringerla a raggomitolarsi su un fianco. «Non preoccuparti», sussurrò l'amica. Poi tutto svanì. La carezza e la mitraglia. Legge Yvonne Capece per Sblocco 5, che è un gruppo teatrale di Bologna. Martedì, ore 13:37. Quando i tre soldati ripresero la marcia, Anima capì che la loro direzione non era quella prevista. Anziché scendere in linea retta verso il casolare, procedevano obliqui, cercando la parte meno scoscesa del campo, e quel cambio di percorso li portava dritto a lei. Non sarebbero più passati a 20 metri di distanza, le sarebbero passati sopra. Pochi secondi e l'avrebbero vista. A quel punto, l'ipotesi della fuga era irrealizzabile. Doveva combattere. Si guardò attorno per studiare la situazione. A 40 metri da lei, il sentiero avrebbe portato i militari ad attraversare una serie di cespugli di ginestra. Le piante si erano appena risvegliate dal letargo invernale e piccole foglioline verdi avevano iniziato ad aprirsi lungo i rami. Passandoci attraverso, i militari avrebbero perso la vista sulla vallata. Decise che avrebbe fatto fuoco sul primo, non appena uscito allo scoperto, mentre gli altri due erano ancora tra le piante. Non si sarebbero accorti della provenienza dello sparo e questo gli avrebbe dato un vantaggio. Si girò verso il fucile. Era troppo lontano per poterlo prendere senza farsi vedere. Doveva usare la pistola. 40 metri. Poteva farcela con la sua Walther. Era difficile, ma non aveva altra scelta. Spostò la parte inferiore del corpo contro la roccia, tenendo scoperte solo le spalle, le braccia e la testa. Non voleva concedere un bersaglio facile, ma aveva bisogno di un appoggio sicuro per avere una mira migliore. Lanciò un'occhiata verso la valle. Dalla posizione in cui si trovava non aveva una visuale completa, ma si ricordava che i tedeschi, impegnati nei preparativi per la fuga, non avevano fucili a portata di mano, tranne la sentinella, ovviamente. Decise che dopo il primo sparo avrebbe fatto fuoco altre due volte, alla cieca, un metro dietro il primo soldato e un metro dietro il secondo, in mezzo ai cespugli. Con un po' di fortuna li avrebbe colpiti tutti. Dopo poteva soltanto correre verso il bosco. Vide i soldati allegri e giocosi, convinti di poter sfruttare l'ultima possibilità per uscire dal conflitto da uomini liberi. Erano sicuri di avere la vita a portata di mano, ma si sbagliavano. Anima raccolse le idee, si sentiva tranquilla. Non avrebbe sbagliato il primo colpo e non lo sbagliò. L'uomo cadde in avanti, con la faccia sul terreno. Seguì il piano e sparò altre due volte. L'eco trasformò i tre spari in una raffica proveniente dall'altra parte della montagna. Quando se ne rese conto, si voltò verso il casolare e vide tutti gli uomini sdraiati a terra. Si guardavano attorno, in cerca della provenienza di quegli spari, ma erano girati dalla parte sbagliata. Non perse tempo. Con un movimento fluido si alzò e raggiunse il Mosin-Nagan, poi prese a correre verso gli alberi. Aveva il cuore a mille per l'adrenalina, ma riusciva a sfogare tutta la forza nelle gambe. Quando raggiunse il limitare del bosco, si gettò tra i cespugli e lì restò, in attesa degli spari. La carezza e la mitraglia. Legge Francesca Grandi. Novembre 1943, domenica mattina. Elena fece forza sui gomiti e si sollevò dal letto, appoggiando la schiena alla testiera. Con la mano destra si massaggiò la spalla sinistra. La ferita stava guarendo, ma le dava ancora fastidio, soprattutto di notte. Guardò fuori dalla finestra, ma era così buio che non riuscì a vedere nemmeno i rami del noce. Anche se doveva fare molto freddo, le prese la voglia di uscire e camminare scalza sull'erba. Si stropicciò gli occhi, spinse forte sui palmi fin quando non vide le stelline brillare e quando li riaprì, Odino era in piedi accanto alla scrivania. Era girato verso la finestra e stava scrutando il buio. Elena si impaurì così tanto che d'istinto si infilò sotto le coperte, rimanendo in ascolto qualche istante. Ma sentiva solo il suo cuore in affanno. Si fece coraggio e riemerse. Indossava i calzoni corti che portava quando l'aveva visto sull'oceano e gli stessi scarponi, ora più usurati e impolverati. Era torso nudo. Nell'ombra riusciva a vedere il suo corpo atletico, il profilo dei muscoli, il petto che si muoveva al ritmo del respiro. Si era fasciato la testa con la camicia e un lembo ricadeva sulle spalle. Elena notò la pelle secca e bruciata dal sole. Aveva delle piaghe sulla spalla sinistra e sul petto, mentre il volto sembrava di cartone. Guardò la stanza. Là dove prima c'era la finestra e oltre il buio della notte, adesso un paesaggio rosso e opaco sfondava le pareti e si estendeva fino all'orizzonte. Percepì l'aria calda che arrivava a lei a ondate. Ebbe voglia di alzarsi e di raggiungere quel paesaggio, di farsi sommergere dalla polvere. Ma ebbe paura. Poi Odino si girò. Sulla gamba destra, all'altezza della coscia, uno straccio ricavato dalla camicia fasciava una profonda ferita, forse da arma da fuoco. Il ragazzo fece due passi e si sedette sul letto accanto a lei. Nonostante la sofferenza, aveva uno sguardo sereno e tranquillo. Le sorrise e disse: «È cominciata». Lei ebbe un sussulto. Dopo quasi 4 anni che non sentiva quella voce, la trovò cambiata, più adulta. L'effetto che faceva su di lei però era lo stesso. Il tempo rallentò e con esso il battito del cuore. Odino era lì. «È cominciata», disse ancora. Elena provò a parlare, ma non ci riuscì. Perciò allargò le braccia e rivolse i palmi verso l'alto, chiedendogli cosa fosse iniziata. «La tua guerra», rispose lui. «È cominciata la tua guerra». Si guardò intorno, un po' impaurita. Non sapeva come interpretare quelle parole. «Non avere paura», disse lui. «Non ce la faccio», pensò. «Lo so, è una strada pericolosa. Dovrai arrivare fino in fondo. E tutti sapranno che la stai percorrendo». «Dove sei?» riuscì a dire, finalmente. «Lo sai già dove sono». «Sei vivo?» «Sì». «Stai tornando?» «Sì». «Posso abbracciarti?» Iniziò a piangere così forte che ebbe il timore di svegliare Elsa nella stanza accanto. Aveva bisogno di toccare qualcuno, di correre al piano di sotto da sua mamma, ma non voleva perdere il contatto. Qualsiasi cosa stesse accadendo in quel momento, si era aperto un canale che li teneva uniti. Non c'erano spiegazioni, era così e basta. Stava succedendo. Si rese conto che erano ancora insieme, in quel modo unico ed evanescente. L'una vicino all'altro. Bastava allungare una mano per prendere quella vita e portarsela via. Eppure, la certezza di non poter compiere quel semplice gesto la fece scivolare dentro un sentimento di malinconia che non riuscì più ad arginare. Lo guardò e con un leggero sospiro disse: «Non lasciarmi mai». Le parole restarono sospese nel silenzio per qualche secondo, poi Odino le raccolse. «No, mai», disse, «ne puoi star certa. Adesso ascoltami però, non abbiamo molto tempo». Lei tirò su con il naso e fece sì con la testa. «Devi stare attenta, non fermarti, mai, non guardarti indietro, non ascoltare nessuno prima di aver ascoltato te stessa. Cerca di superare la paura. È tutto in mano tua». «Non ce la faccio, Dino. Mi dispiace». «Io invece sono sicuro di sì. Sei una ragazza forte, anche se non lo sai. Presto lo capirai». Odino le sorrise e si sporse in avanti, lasciando che il ciondolo che aveva al collo rimanesse sospeso a mezz'aria. «Cos'hai lì?» Il ragazzo guardò la scheggia di legno. La prese tra il pollice e l'indice e l'avvicinò a Elena, poi sorrise. Il fiato le si spezzò in gola. Le lacrime tornarono a scorrere, ma lei le deglutì e con uno sforzo ricambiò il sorriso. «Leggi la lettera», disse Odino. «Ho letto tutte quelle che mi hai mandato». «Elena, devo andare adesso. Leggi la lettera». «Quale lettera?» «Promettimi che non avrai paura». Non aveva senso insistere, perciò disse: «Sono io quella delle promesse. Promettimelo». «Non posso, ho già paura. È una cosa che non posso prometterti». «Allora promettimi che non ti fermerai». Ci pensò su, guardò il vuoto oltre la parete e disse: «Va bene, te lo prometto. Non mollerò di un centimetro». «Così mi piaci», disse lui. «E tu?» «Io tornerò. Te l'ho già promesso». «Dove?» «Via Nosadella 27. Mi troverai lì quando tutto sarà finito». «Va bene. Elena, dimmi, tu ci sarai?» Chiuse gli occhi cercando il coraggio per sorridere e quando li riaprì, Odino era sparito e con lui la voragine nella parete. La luce del sole entrava dalla finestra e faceva brillare gli oggetti nella stanza. Non c'era stato un paesaggio tra la notte e il giorno, o almeno non lo ricordava. Prima era lì nel buio a guardarla con quei suoi occhioni e un attimo dopo non c'era più. Al suo posto era arrivato il sole. Guardò le coperte, cercò il punto esatto, sperò di vedere l'impronta che doveva pur aver lasciato quando si era seduto, ma non trovò nulla. C'erano solo le coperte ed erano fredde. Arrivata mattina, si alzò e scese al piano di sotto. Era scombussolata, anche se quelle visioni non erano più una novità. Avevano conquistato un posto preciso nella sua vita. Il mondo le sembrava più comprensibile, forse anche più piccolo. ma stavolta la visione non l'aveva tranquillizzata. Odino le era apparso affaticato e sofferente e aveva parlato di una guerra cui lei avrebbe preso parte. Ma questo non era ancora nei suoi piani. Più volte aveva discusso con Silvano della possibilità di entrare a far parte di qualche gruppo combattente, ma il Comitato di Liberazione Nazionale, il PC, stavano ancora discutendo su come gestire la reazione all'occupazione tedesca. Si parlava di una grossa brigata che si stava formando sugli Appennini, lungo la valle del fiume Setta, ma le voci arrivavano ancora frammentarie e imprecise. E poi quell'accenno di Odino a una lettera. A cosa si riferiva? I conti non tornavano. Passò davanti alla camera della madre. La porta era socchiusa. La vide addormentata sul letto. Non sembrava malata, solo un po' magra. Decise di non entrare. Sarebbe andata da lei più tardi. In cucina trovò Ilse e Umberto che stavano facendo colazione. Si erano serviti un po' di latte e mangiavano qualche biscotto ricoperto di glassa. «Elena!» esclamò Umberto. «Papà!» «Buongiorno, Elena!» disse Elsa. «Hai dormito bene?» le chiese suo padre. «Sì. Che cosa fai oggi?» Non aveva risposte, ma voleva evitare il silenzio. Quando era in presenza di suo padre e di Elsa, aveva paura dei silenzi improvvisi nei quali si insinuava sempre qualche rimprovero e quella mattina non era dell'umore giusto. «Vengo in centro con te se tu ci vai.» «Davvero? Certo che vado. Che cosa devi fare?» «Volevo andare all'università. È arrivato il momento di prendere una decisione.» «Elena», intervenne Elsa, «ma questa è una notizia perfetta.» Guardò la sorella con aria interrogativa e disse: «A me non sembra.» «Beh, ci stavamo tutti chiedendo cosa avresti fatto in questa stagione.» «Davvero, Elsa?» domandò. «Ve lo stavate chiedendo?» «Sì, insomma, hai finito il liceo. O vai in laboratorio ad aiutare papà o fai l'università. I corsi sono già iniziati.» Umberto si era alzato e aveva messo nella tazza della panna preparata con lo zucchero. Poi versò un po' di latte per Elena. Prese un cucchiaio e un tovagliolo, la ciotola dei biscotti e apparecchiò per la figlia. «Grazie, papà», disse. «Siediti.» Elena iniziò a mangiare in silenzio, concentrandosi sui biscotti. «Come va la mamma?» chiese Umberto. «Sta dormendo, non l'ho disturbata. Vado dopo.» «E la tua spalla?» Alzò lo sguardo verso il padre. La stava guardando con attenzione. Aveva un'espressione che quasi non riconosceva. Dopo il bombardamento e la brutta situazione in cui si erano trovate, Umberto era diventato un po' meno severo con lei. Non rispose. Aveva la bocca piena. Alzò e abbassò il braccio sinistro qualche volta per far vedere che ne aveva guadagnato il controllo. Quando raggiunse la massima estensione, sentì una leggera fitta, ma non li a vedere. «Elena, senti, non metterti fretta.» «In che senso?» chiese dopo aver bevuto un sorso di latte. «Nel senso che sono tempi difficili per tutti. I soldi per mandarvi all'università ci sono, ma se preferisci venire a lavorare in laboratorio sei libera di farlo.» «Non mi va di lavorare in laboratorio.» «Va bene, allora se vuoi posso sentire se c'è qualcuno che ha bisogno di...» «Papà, oggi vado all'università, poi vediamo.» «Come vuoi, però qualcosa devi fare. Non mi va che te ne vai in giro senza fare niente. Non voglio che ti metta nei guai.» In realtà non aveva nessuna intenzione di andare in Ateneo. Elena ricordava le parole di Silvano in merito al proseguimento degli studi, ma in quel periodo frequentare l'università le sembrava proprio fuori luogo. Men che meno avrebbe accettato un lavoro arrivato dall'universo fascista del quale gravitava il padre. Quel giorno stesso sarebbe andata da Silvano e avrebbe preso una decisione, perché la lotta clandestina era l'unica possibilità. «A che ora esci?» chiese al padre. «Appena finito colazione, devo incontrare della gente. Porto Isla a scuola, se vuoi ti lascio in centro.» «Sì che voglio.» «Bene, allora cerca di sbrigarti.» «Hai più rivisto Albertina?» chiese Elena senza guardarla. Era una domanda ostile, ma decise di dirle la verità. «Qualche volta.» La sorella guardò il padre e trattenne un sorrisetto compiacente, ma lui non lo colse. Ingoiò una cucchiaiata di panna e si pulì la bocca con il tovagliolo. Non sembrava turbato e disse: Devo ancora ringraziarla per il giorno del bombardamento. L'ho fatto io per te, rispose Elena. Come sta? Si è ripresa? Ne sono uscita peggio io, però l'hanno cacciata dal lavoro. Stanno cercando gli ebrei ovunque, ma la storia già la sapete, immagino. Dov'è? Elena lo guardò con aria di sfida e non rispose. Era una domanda semplice, disse Umberto. Fanne un'altra, sentenziò lei. Il padre arrestò lo sguardo per un po' e poi spostò l'attenzione sull'orologio a parete e la tensione si sciolse. Comunque ringraziala da parte mia quando la rivedi, disse. Elena fu sorpresa nel vedere la sua espressione sincera, ma quando si girò verso la sorella provò un brivido. Ilsa aveva una strana luce negli occhi, una consapevolezza di vittoria anticipata, e quello che disse dopo fu la chiave che spalancò la porta sull'abisso. «Papà, tanto lo sai che non la rivedrà più!» Parlò in tono leggero, quasi superficiale. Il silenzio prese possesso della cucina e congelò le persone là dove si trovavano. Poi Elena iniziò a cadere nel baratro. «Cosa significa?» chiese. Nessuno rispose. «Papà?» «Elena, ascolta, è un momento difficile, lo sai. Le leggi razziali... Da quando Mussolini è tornato a... Ti rendi conto che adesso siamo in mano ai tedeschi, vero? Che la Repubblica Sociale ha preso accordi ben precisi con il Führer? Con la tua famiglia di ebrei?» Elena si alzò di scatto, rovesciando la tazza sul tavolo. «Gli ebrei cosa?» urlò. «Ragazzina, datti un contegno», la rimproverò Umberto. Lei però urlò più forte. «Gli ebrei cosa?» Il mondo era sparito. Puntò gli occhi prima sul padre, poi sulla sorella, poi ancora su Umberto. Non sarebbe uscita da quella stanza senza una risposta. Alla fine fu Elsa a parlare e lo fece con un filo di voce. «Hai un'ora per avvertirla», disse. «Forse neanche quella». Ne aveva abbastanza. Con un salto volò oltre il tavolo e in un attimo aggredì il collo della sorella. L'impeto la fece precipitare a terra entrambi con le loro sedie. Elsa reagì urlando e picchiandola sulla schiena, ma Elena mollò la presa solo per stringere il pugno e far partire un gancio che colpì la sorella in viso. Si aprì una ferita proprio sul sopracciglio, mentre per un attimo Elena pensò di essersi rotta la mano, forte era il dolore. Il colpo fu così violento che tutti e tre restarono sorpresi, incapaci di reagire. Fu un cazzotto da campione, una cosa da raccontare. Poi si tirò in piedi, fece due passi indietro e li guardò in silenzio. Elsa era ancora a terra e aveva una mano sull'occhio destro. Umberto in piedi lì accanto, disorientato. Non aveva ancora scelto l'espressione giusta. Elena non gliene diede il tempo. Si girò e corse fuori. Quando arrivò in piazza Malpighi, l'aria era così densa che si faceva fatica a tenere gli occhi aperti. Una nebbia fatta di goccioline sospese impregnava ogni angolo della città. Entrava nelle pieghe dei vestiti, finiva tra i capelli raccolti nei foulard delle signore. Elena fu costretta a scendere dalla bicicletta e proseguire a piedi. C'era molta gente che occupava la strada impedendo il passaggio e le poche automobili procedevano a passo d'uomo. Notò subito i tedeschi. Erano ovunque, raccolti in piccoli gruppi, mentre diverse camionette militari presidiavano gli angoli della piazza. C'erano anche fascisti e repubblichini in divisa. Si guardavano attorno con aria fiera, gonfiavano il petto, ma con la coda dell'occhio tenevano sotto controllo i movimenti dei militari. Nell'angolo vicino a Elena, proprio dove Piazza Malpighi confinava con Via Finzi, poco distante dalla sinagoga, c'era il gerarca che aveva visto il giorno dopo l'azione con Silvano a Palazzo Fava. Era al centro di un gruppetto di persone, quasi tutte in borghese, tranne due ufficiali della Wehrmacht. «Cosa succede?» chiese a un uomo che si guardava intorno spaesato. «I siem purtevi tot!» Elena lo guardò di lato, ma l'uomo non si girò verso di lei. Un moto d'ansia le stava salendo dal petto. «Chi si sono portati via?» «Gli ebrei», disse l'uomo. «Li hanno portati tutti a Corticella. E poi chissà dove vanno a finire. Erano almeno 20 o di più». Lasciò cadere la bicicletta e iniziò a correre. Non riusciva più a pensare. Il suo corpo si muoveva in modo meccanico, a scatti con improvvisi cambi di direzione. attraversò la piazza tenendosi sul lato sinistro, passò accanto al grande platano che dominava tutto l'isolato. Non si curò delle urla che provenivano da un posto di blocco tedesco. Corse fino in via Nosadella inseguita dal tempo, dall'angoscia, dalla certezza che la vita stava virando repentinamente verso una nuova oscura direzione. L'appartamento era vuoto. La porta aperta sul pianerottolo aveva un aspetto inquietante. Entrò senza chiamare perché non voleva avere risposte. Percorse il corridoio e arrivò alla cucina dove la finestra che dava sulla strada era aperta. C'erano cassetti rovesciati e armadi spalancati. Passò in soggiorno, percorse lo spazio vuoto con le braccia allargate, antenne in cerca di segni di vita. Sul tavolo rotondo c'erano un libro e un quaderno, una brocca d'acqua e un bicchiere ancora pieno. Si guardò attorno e vide che dalla vetrinetta erano sparite foto di famiglie e soprammobili. Mancava anche la menorah. Nella camera di Albertina le ante dell'armadio erano aperte e alcuni vestiti giacevano sparsi sul pavimento. Riconobbe il baule più grande gettato sul letto, pieno a metà di vestiti piegati senza cura. Vicino a una parete due paia di scarpe erano ordinate una accanto all'altra, mentre sul comodino non c'era più il piccolo portagioielli nel quale Tina teneva un paio di orecchini e una collanina che si toglieva di notte. Corse fuori dall'appartamento, salì le scale che portavano all'ultimo piano, due gradini alla volta, aggrappandosi alla ringhiera con il braccio sinistro per farsi forza. Arrivata in cima, vide che la botola di accesso al sottotetto era aperta e che la scala pioli che di solito appoggiavano al muro era a terra, rotta. Si arrampicò sulla ringhiera e con un salto si appese al perimetro dell'apertura. Rimase lì penzolante per qualche secondo. Sentì una fitta alla ferita provocata dalla scheggia, ma non mollò la presa. Si fece forza e si issò. Il solaio era soqquadro. Lo sguardo cadde subito sul mobile in fondo alla stanza, una vecchia madia di noce che chiudeva l'accesso alla parete più nascosta del rifugio. Il mobile era ribaltato e la porticina aperta. Attraversò la stanza senza speranze e quando fu dentro, la realtà le spezzò le gambe. Era arrivata tardi. L'avevano ingannata, tradita, e chi avrebbe potuto avvertirla non l'aveva fatto. Il mondo era una gabbia di bestie feroci. Nulla aveva più importanza. L'universo si era svuotato. Sospirò, tirò su con il naso e raddrizzò la schiena, facendo attenzione a non sbattere la testa contro le travi di legno. Cercò di calmarsi. Si guardò attorno. Vide soprattutto il vuoto, ma da quel silenzio arrivò un'immagine inaspettata. Era qualcosa che aveva notato appena entrata nella stanza, anche se in quel momento non ci aveva dato importanza. Si avvicinò alla piccola scrivania sistemata sotto il lucernaio e guardò la scena con attenzione. C'erano fogli sparsi, un taccuino verde, alcune matite e un calamaio. Tutto sembrava così in disordine che ebbe l'impressione che quel caos fosse voluto. Poi lo vide, il quaderno sul quale studiavano durante le lezioni con Odino. Era un po' che non lo vedeva. A differenza del resto, il quaderno era allineato al perimetro del tavolo, appoggiato nell'angolo in alto a sinistra. Lo prese in mano e iniziò a sfogliarlo. In una pagina tra le tante, scritto con un inchiostro rosso e a rovescio rispetto al verso di lettura, c'era un messaggio. Riconobbe subito la grafia di Albertina. «Elena, stanno arrivando. Ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Fammi una promessa. Resisti. Fallo per me. Di promesso. Non barare». Si guardò attorno confusa. Cercò qualche appiglio. Si appoggiò a una sedia, respirando a fatica. Poi arrivò la rabbia. Un sentimento che non dava scampo. Strinse i pugni e urlò. Thank you. La carezza è la mitraglia. Legge Francesco Ciberone Apuzzo. Novembre 1943, domenica sera. Elena. Elena stava quasi correndo sotto il portico di via Fondazza, mentre attorno la città la coglieva silenziosa. Non si sarebbe mai abituata all'aria della sera colorata di azzurro. I vetri dei lampioni erano stati dipinti nella speranza che la loro luce non arrivasse fino ai bombardieri. Ma non serviva molto. In compenso, quella luce rendeva tutto etereo e sospeso, e la nebbia ne amplificava l'effetto. Con una mano serrava il paltò e con l'altra stringeva il fagotto che aveva con sé. Più che stringerlo, ci si aggrappava. Se fosse caduto non sarebbe successo nulla, ma non voleva commettere errori. Il tritolo non esplode se cade a terra o se lo stringi forte. Esplode solo se lo inneschi con rabbia. E a farlo ci avrebbero pensato le persone a cui doveva consegnarlo. L'aveva preteso, era stata irremovibile. Dopo essere uscita dall'appartamento di via Nosadella 27, aveva vagato per la città senza una meta precisa, lontana da tutti. Ma poi aveva trovato il modo di reagire. E così, quello stesso pomeriggio, nella cantina di via Brocca Indosso, aveva messo Silvano alle strette. «O mi dai un'azione, o ne trovo una io». L'uomo aveva evitato di guardarla, puntando gli occhi sul lavandino sotto la finestrella. «Pensa a quello che fai», disse, ma lei non aveva risposto. «Magari non la portan via, magari resta la corticella, poi la vaffanculo». «Elena, boia d'un manleder, vaffanculo», ripeté. Lo inchiodò con lo sguardo e allora lui iniziò a ragionare. «Ci sarebbe una cosetta semplice», propose. «Non la voglio una cosa semplice», disse lei. «Beh, socia, iera c'è par dir, una cosa importante, ma dovrebbe andar via liscia. L'abbiamo affidata a un'altra, più esperta. Puoi andare tu, se vuoi». «Sì che voglio». «Devi portare una cosa che pesa 3 chili da un punto all'altro della città». «Quale città?» «Quale città, quale città? Questa è Elena, la nostra città, Bologna». «E cosa sarebbe? Cosa devo portare?» Silvano l'aveva guardata indeciso, poi aveva risposto: «La morte e la libertà, Elena, la morte e la libertà». Via Fondazza terminò sull'incrocio con via Santo Stefano. Elena girò a destra e riprese a camminare aumentando la velocità, ma si accorse subito che la pavimentazione del portico aveva cambiato consistenza. Adesso le suole di cuoio delle sue scarpe calpestavano un fine mosaico di marmo e granito, producendo un rumore acuto che si riverberava ovunque. Si fermò e si appoggiò a una colonna, cercando di ritrovare un po' di quel fiato rubato dal passo la paura. Doveva sforzarsi di restare calma, ma per quanto ci provasse, non riusciva a mantenere il controllo né del corpo né delle emozioni. Si guardò le mani e si accorse che stava tremando, un tremore profondo che sembrava non voler finire mai. Infilò la mano destra sotto il paltò, sentì il fagotto di esplosivo lì al caldo, ancora inerte. Lo posò a terra, si tolse le scarpe e le infilò nelle tasche, una a destra e l'altra a sinistra. Poi, per paura di scivolare, slacciò le calze dai fermagli che le reggevano e si tolse anche quelle. Raccolse l'esplosivo e iniziò a correre. Il pavimento le gelava i piedi e più correva, più aveva la sensazione che il freddo si arrampicasse sulle gambe, ma non si fermò. Risalì via Santo Stefano fino all'antica piazza, si appoggiò di nuovo a una colonna e guardò verso la collina di San Giovanni in Monte. Le strade erano deserte e le finestre delle case chiuse. Per avere una visuale migliore, si portò dall'altra parte della strada, ma appena arrivò sotto il portico di fronte, si accorse che in fondo alla via c'era un posto di blocco tedesco. Era a circa 50 metri. Vedeva 2 soldati in piedi, una camionetta e alcuni sacchi di sabbia che ostruivano la strada. Per paura degli attentati, i crucchi chiudevano gli accessi al carcere che si trovava nel convento in cima alla collina. Elena non riusciva a distinguere le figure e non sapeva se erano soldati semplici o ufficiali. Non era neppure sicura del numero di persone. La nebbia e la luce azzurra che si riverberava dai lampioni confondeva tutto, sfocando i contorni delle figure. A vederli da lì sembravano solo due ragazzi. Si domandò se il suo contatto avesse visto il posto di blocco, se fosse riuscito a raggiungere il luogo dell'appuntamento o se invece avesse deciso di abbandonare la missione. Se non fosse arrivato, sarebbe dovuta tornare indietro e portarsi a casa l'esplosivo. Era una possibilità a cui non voleva neanche pensare. Indietreggiò di qualche passo e si nascose dietro l'angolo della casa. Fu in quel momento che sentì il richiamo, un breve fischio, quasi sussurrato. Poi un secondo e un terzo, più lungo. Era lui. Si girò con il cuore che pompava sangue come una turbina e iniziò a correre su per la salita che portava in cima al colle. Poco prima di arrivare alla piazzetta, qualcuno la strattonò da destra facendola cadere sul selciato. «Stai giù e non fiatare!» Da terra vide due occhi severi che la guardavano, per poi spostarsi verso la piazza. Un uomo l'aveva trascinata dietro un ammasso di pietre e mattoni, detriti dell'edificio per metà crollato. «Alfonsina!» disse lui. Lei non capì subito, poi si ricordò della parola d'ordine. «Libertà!» rispose. Sentì la voce arrampicarsi in gola e uscire ridotta a un sussurro. «Chi ti ha mandato?» «Silvano!» disse. La persona che era sdraiata sopra di lei fece un'espressione di disappunto. Poi strisciò contro la parete crollata, trainando Elena per un braccio. «Girati e guarda!» le ordinò. Elena si voltò verso la piazza e le parve di vedere un vero e proprio esercito. Davanti all'ingresso del carcere c'erano due soldati, mentre due camionette erano parcheggiate ai lati opposti della piazza. In ogni camionetta sedeva un soldato. Poi c'era un gruppetto di tedeschi che attorniavano un barile in cui era acceso un fuoco, proprio di fronte alla facciata gotica della chiesa. Contò 5 soldati, 9 in tutto, più i 2 del posto di blocco, che all'occorrenza sarebbero arrivati in un attimo. Si domandò come avesse fatto a passare inosservata, un colpo di fortuna. «Mi spiace». Le sembrò stupido dirlo, ma quelle parole le uscirono spontanee. «Zitta e fammi pensare!» Elena si accorse in quel momento di essere bloccata in una stretta robusta. L'uomo la stringeva a sé con le sue braccia muscolose, impedendole di muoversi. Quasi faticava a respirare, ma riuscì comunque a sentire il suo odore. Era molto forte, dolce di terra e di acqua. Le ricordava il giardino di casa nelle mattine di primavera, o quando ribaltava le pile di fieno con il forcone, in estate. Ma a questo si aggiungeva l'odore intenso di pelle lavata di rado, di capelli lunghi, di barba incolta, l'odore della concentrazione e dei muscoli tesi, l'odore del predatore. «Non dovevano essere così tanti», disse poi il partigiano. «Le informazioni che avevamo erano diverse». Elena allungò il collo per controllare la situazione della piazza. Poi chiese: «E quanti dovevano essere?» 2 sentinelle all'ingresso e una delle 2 camionette, più i 2 ragazzini al posto di blocco, giù in fondo alla strada. «Cosa è successo?» «Non lo so», rispose lui. «Dobbiamo trovare il modo di proseguire». Lei aspettò qualche secondo, poi timidamente disse: «Forse invece possiamo tornare indietro. Io sono passata di là». Indicò la discesa e il tratto di portico in via Santo Stefano, da dove era venuta. «Ragazzina», disse l'uomo, «io non mollo una missione a metà, neanche se ci sei in mezzo tu». «Io?» domandò Elena. «Sono solo una staffetta, e poi per caso». L'uomo distolse l'attenzione dalla piazza per lanciare a Elena un'occhiata severa, di quelle che perforavano. Uno sguardo così, proprio non l'aveva mai visto. «Solo una staffetta?» sottolineò lui. «Non sai quello che dici. Siamo un paese occupato. O stai dalla parte di chi occupa, o stai dalla nostra parte. Decidi tu. Ma devi farlo adesso». La paura aumentò. Per un attimo sentì venir meno le forze e pensò di svenire, lì tra le braccia di quello sconosciuto. Invece si aggrappò all'ultimo respiro rimasto e chiese: «Cosa devo fare?» Il partigiano infilò una mano sotto il cappotto di Elena, prese il fagotto e lo posò sulla pancia della ragazza. Poi estrasse da una tasca dei pantaloni un coltello a serramanico. Aprì il fagotto e tagliò in maniera decisa il panetto di tritolo, dividendolo in 2 parti, una più grande, l'altra circa un terzo del tutto. Avvolse la prima in un fazzoletto e la mise nella tasca della giacca. Poi sfilò lo zaino che aveva sulle spalle, prese un innesco e infilò 2 elettrodi nel tritolo, spingendoli fino in fondo con delicatezza. Infine, legò il tutto con una cordicella. «Dove sono le tue scarpe?» domandò il partigiano mentre lavorava. Si era proprio dimenticata di essere scalza. Era così immersa nella situazione, impaurita e attenta ai movimenti dell'uomo, che non aveva più pensato al freddo e al dolore ai piedi. Si scostò leggermente e prese le scarpe dalle tasche. Se le infilò così, senza calze. Facevano rumore sotto il portico, ma si sentì in colpa. «Ora stammi a sentire», disse l'uomo. «Adesso ti alzi, scendi di qualche metro e poi risali la collina. Devi farti vedere dal gruppo di tedeschi che stanno attorno al fuoco. Vai da loro, cerca di essere carina. Sono ragazzi, non ti arresteranno. Almeno non subito». Guardò l'orologio da polso, poi aggiunse: «Ho un paio di uomini che arriveranno da quella strada laggiù tra meno di 2 minuti. Saranno vestiti da militari, si presenteranno alle 2 sentinelle. Elena guardò il gruppetto di tedeschi attorno al fuoco, sentiva le loro voci e le loro risate. Non parevano preoccupati, come se la guerra fosse solo una fase transitoria delle loro vite. Spostò lo sguardo dall'altra parte della piazzetta. Accanto alle 2 camionette partiva una strada stretta e tortuosa. Sembrava più un sentiero tra le case, se ne scorgevano solo pochi metri, perché poco più avanti svoltava bruscamente a sinistra e scendeva verso il buio. «Quando ti vedranno, i miei uomini non capiranno», continuò l'uomo. «Non c'è modo di avvertirli. Vedranno che la situazione è ben diversa da quella che ci aspettavamo, ma seguiranno comunque il piano. Resta con i 5 tedeschi. Quando senti sparare, inizia a correre». Elena si voltò di scatto verso l'uomo e gli domandò: «E se non capiscono? E se invece se ne vanno? Chi spara?» «Non se ne andranno», disse il partigiano. Poi, mollando finalmente la presa su di lei, disse: «Ora vai». Elena strisciò contro il muro di mattoni dell'edificio, scavalcando a fatica il cumulo di macerie. Si alzò, corse in discesa fino alla fine della strada e arrivò all'incrocio con via Santo Stefano, proprio dove si era fermata prima. Guardò verso sinistra. I 2 soldati del posto di blocco erano ancora lì, ignari di tutto. Dall'altra parte, invece, non c'era nessuno. La città sembrava immersa in una nuvola e solo le voci dei soldati in cima al rilievo le fornivano un punto di riferimento per orientarsi. Le bastava un attimo per attraversare e sparire nel fitto intreccio di strade. In fondo, aveva portato a termine la sua missione. Respirò profondamente quell'aria umida e fredda, chiuse gli occhi e giunse le mani tra loro. Non avevano mai smesso di tremare. Non se la sentiva, eppure iniziò la risalita. Il primo a girarsi fu un ragazzo che non poteva avere più di 18 anni. Si era tolto l'elmetto e aveva una sigaretta in bocca. La teneva nell'angolo destro, come se fosse uno stuzzicadenti. Quando Elena si accorse di essere stata vista, ebbe un mancamento, un vuoto di energia nei muscoli delle gambe. Inciampò, perse l'equilibrio e cadde sbattendo il ginocchio destro al suolo. Appoggiò le mani davanti a sé e restò ferma a guardare i ciottoli incastonati nel terreno. Non riusciva a muoversi. Il soldato chiamò i suoi compagni e corse verso di lei. La abbracciò da dietro e la tirò in piedi delicatamente, dicendo: «Piano! Fare piano!» Si lasciò sollevare e si appoggiò alla spalla del ragazzo. Nel frattempo, anche gli altri soldati l'avevano attorniata. Fu in quel momento che vide un'ombra muoversi alla sua destra. Il partigiano si stava spostando. L'azione era iniziata e lei, in un modo o nell'altro, le aveva dato il via. «Tu bene?» domandò il primo soldato. Anche la voce era giovane, sottile come quella di un bambino. Elena fece di sì con la testa, ma si sfregò la gamba sinistra, indicando la caviglia. Un secondo soldato la sollevò dal lato sinistro per non farle toccare terra con la gamba che credeva ferita. Il gruppetto si avvicinò al fuoco. «Moto freddo!» disse il primo soldato. «Qui meglio!» «Sì», rispose Elena. Si guardò attorno in cerca del partigiano, ma non riuscì a vederlo. Invece, notò 2 figure che si stavano avvicinando dal fondo della piazza. Dovevano essere gli uomini che stavano aspettando. Un tedesco prese una gavetta e gliela porse, ma Elena non perdette di vista ciò che stava accadendo a poca distanza da loro. Si ricordava bene le parole del partigiano: «Quando senti sparare, inizia a correre». Si domandò da che parte fosse meglio fuggire, se in discesa verso via Santo Stefano, oppure di lato, tagliando in diagonale la piazzetta e raggiungendo la stradina. aspettava gli spari da un momento all'altro e invece ci fu un'esplosione. Un boato improvviso che fece tremare la terra e i palazzi circostanti. Quando arrivò lo spostamento d'aria, Elena si ritrovò stesa sul selciato, confusa. Aveva l'impressione di non percepire più alcun rumore, tranne un rombo continuo in sottofondo. Quel giorno aveva già vissuto troppe emozioni. Cercò qualche punto di appoggio per alzarsi, ma vedeva solo polvere che si aggiungeva alla nebbia fitta, e sullo sfondo qualche lampo, accompagnato dal rumore sordo e secco dei fucili mitragliatori. Aveva un grosso peso sul petto, perciò sollevò la testa per avere una visuale migliore. C'erano persone che correvano ovunque, sentì urla sovrapporsi e poi altri spari. Si spostò di lato, fece leva con il braccio e con la gamba destra per liberarsi dal peso, che lentamente scivolò verso sinistra. Solo in quel momento si rese conto che a premerle sul petto erano i corpi di due soldati. Il primo, quello proprio sopra di lei, era il ragazzo giovane. Giaceva a pancia in giù con la faccia a pochi centimetri dalla sua. Dal naso e dalla bocca usciva sangue e l'occhio destro pendeva fuori dall'orbita. Il secondo corpo non l'aveva riconosciuto, ma non era un morto. Lo sentiva respirare e lamentarsi piano. Continuò a spingere con la gamba destra e riuscì a liberarsi fino alla cintura. Strisciò di lato, rimanendo sempre con la testa sollevata per guardarsi attorno. Voleva restare lucida, doveva reagire senza farsi prendere dal panico. Fece leva sugli avambracci e allungando una mano toccò la canna di una pistola. Doveva essere quella del soldato più giovane, uscita dalla fondina dopo l'urto dell'esplosione. La prese e se la passò nella mano sinistra. La guardò da vicino. Non aveva idea di come si usasse una pistola, ma il funzionamento sembrava intuitivo. Gli spari continuavano e adesso si erano accese diverse luci all'interno del carcere, dal quale provenivano urla incomprensibili. Si lasciò cadere sulla schiena. Vide i due soldati del posto di blocco risalire la piazza. Chiuse gli occhi. Respirò. Ebbe la sensazione di avere il pieno controllo della situazione. Tese il braccio sinistro e sparò. I soldati caddero a terra. Elena sollevò il busto, si girò verso destra e sparò ancora. Colpì i due tedeschi posizionati accanto alla camionetta. Erano così presi dall'azione che morirono in silenzio, accasciandosi uno sull'altro. Lanciò un'occhiata su tutta la piazza. Cercò di inquadrare la situazione. Alcuni soldati, appena usciti dall'edificio, l'avevano vista sparare. Non aveva più tempo. Fece ricorso a tutta la sua forza per spostare i corpi che la schiacciavano e finalmente si alzò. Una volta in piedi, superò con un salto i resti dei tre soldati. Uno di loro giaceva con la faccia al cielo e gli occhi spalancati, mentre i tizzoni che erano nel bidone ribaltato gli avevano incendiato le gambe. Elena non se ne curò. Iniziò a correre verso le macerie vicino alla chiesa, ma arrivata a metà della piazza, i tedeschi la presero di mira. Sentì le pallottole volare. Sparò ancora, senza smettere di correre. Raggiunse la chiesa e lì si accorse che era sola. I partigiani non c'erano più e non vedeva nemmeno i loro corpi. Pensò che fossero fuggiti sfruttando il suo fuoco di copertura. Esplose due colpi verso il buio. Poi corse giù per la discesa. La carezza e la mitraglia, legge Marco Filopat. ...1943, domenica, notte, Elena. Mamma! Mamma! Elena, tirati su, mamma, aspetta che ti aiuto. Ma che ore sono? È ancora notte, fai piano. Ma stai piangendo. Vieni qui. No, aspetta, Hanno portato via Albertina, tutta la sua famiglia, hai capito? Li hanno catturati, li hanno portati via. Ma cosa dici? Dove li hanno portati? Non lo so, mamma. E poi ho ucciso qualcuno. Cosa? Ho ucciso qualcuno. Oddio, Elena, ma cosa stai dicendo? Mamma, non riuscivo più a stare ferma. Sono corsa da Silvano e mi sono fatta assegnare una missione da staffetta, ma quando sono arrivato è andato tutto storto e i tedeschi si sono messi a sparare. C'è stata un'esplosione. Ho avuto tanta paura, mamma. No, ma Dio, Gesù, guarda, Elena, ma cosa ci fai con questa pistola? Chi te l'ha data? Mettila via. L'ho presa e mamma, ho sparato. No, Dio. Vieni qui. Restarono sedute nel suo letto, in silenzio, abbracciate, ascoltando il loro respiro condensarsi nell'umidità che c'era nella stanza. Il groviglio di emozioni che stavano provando era così intricato che nessuna delle due ebbe il coraggio di provare a sbrogliarlo. Fu Maria a parlare per prima. «Mi hanno detto che eri andata all'università». «Figurati», sbuffò Elena. «Infatti non ci credevo». Ma non ho detto niente. Prendi un po' d'acqua, un bicchiere d'acqua, per favore. Per tutti e due, ti va? Senza rispondere, Elena si alzò e prese la brocca con l'acqua preparata per la notte. C'era un solo bicchiere, così lo riempì. Lo pose alla madre, aspettò che prendesse la sua parte e poi bevve il resto. Quando si sistemò di nuovo sul letto, il nodo che aveva in gola si era un poco sciolto. «Ho anche picchiato Elsa stamattina», disse. «Guarda qui». Girò la mano sinistra per mostrare le nocche a Maria. Erano livide e un po' gonfie. Aprì e chiuse la mano un paio di volte. Poi la nascose sotto una gamba. «So anche questo», disse la madre severa. Poi però si guardarono e iniziarono a sorridere. «Meglio non parlarne», disse Maria. «Sì, è meglio non parlarne». «Adesso cosa farai?» Elena si prese un po' di tempo prima di rispondere, perché sapeva che quello che aveva da dire avrebbe fatto soffrire entrambe. Perciò, anche se non c'era un modo semplice per spiegare, scelse le parole con cura. «Vicino a Marzabotto si sta formando una brigata, un piccolo esercito, credo. Penso che partirò stanotte». «Stanotte? Cioè adesso?» «Non posso più aspettare». «Ma anche se resti in città, poi non hai fatto cose... fino ad oggi, no? Niente di particolare». «Sì, ma adesso non riesco più a trattenere la rabbia. In città c'è troppa politica e io devo combattere». Si guardarono. Il confine era stato superato ancora una volta. Aveva agito di istinto, come faceva sempre. Adesso si aspettava una reazione energica da parte di sua madre, uno schiaffo magari. Quanto avrebbe voluto un bello schiaffo a mano aperta, un colpo secco per ripulire la strada dai macigni. Beh, lo schiaffo arrivò, ma furono le parole. «Vai di sotto in cantina. Nel baule grande ci dovrebbero essere i miei vestiti da montagna, maglioni e pantaloni di lana, sciarpe e cappelli. Dovresti trovare anche delle calze e degli scalponi. Prendi tutto. C'è anche uno zaino. Quello di tuo padre è più grande, ma non so dove l'abbia messo. Immagino che non andrai a chiederglielo. Quello che non ci sta nello zaino, indossalo, uno strato sopra l'altro, in montagna, è freddo, e tu non sei abituata». «Come faccio a lasciarti qui?» Non lo disse, lo pensò soltanto, Maria però se ne accorse e rispose: «Non preoccuparti, io me la caverò, a me ci pensa Elsa». «Ma non è la stessa cosa», disse. «Falla finita, Elena, non puoi pensare a tutti». «Io non penso a tutti, invece sì. Dovrebbe dare anche un po' te stessa d'ora in avanti. Dovrai essere forte». «Me lo dicono tutti, mamma. Ma non è facile». «Tutti chi?» «Me lo dici tu. Mi ha lasciato un messaggio Albertina. Me l'ha detto Odino la notte scorsa». «Odino? L'hai visto ancora?» «Lo vedo sempre. Elena, mi sento in colpa». «Per che cosa?» «In realtà non lo so. È un mondo che non riconosco più, questo». «Beh, ci penseremo noi a mettere a posto le cose. Non si può più star fermi ad aspettare che la situazione si metta in ordine da sola. Io non ci riesco. Portano via le persone, mamma. Le ammazzano. Bisogna dire qualcosa. Bisogna fare qualcosa. È proprio una situazione orribile. Sì, è così. Una cosa che è successa, ma non deve restare così per sempre. Si abbracciarono ancora. Poi Maria disse: non vorrei cambiare niente di come sei. Devi ricordartelo questa. E poi si abbracciarono ancora più forte. Aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus. Trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini. La storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. Six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Thank you. La carezza e la mitraglia. Legge Valerio Canè. 25 luglio 1946, giovedì, ore 10:30. Il giorno in cui tornò, si fermò davanti al palazzo del comune e aspettò. Proprio di fronte alla grande statua del Nettuno, qualcuno aveva posato a terra delle fotografie. Erano centinaia. Ritratti di ragazzi giovani, molti dei quali avevano sguardi da bambini. Girò in punta di piedi tra quelle immagini, superò mazzi di fiori gettati senza un ordine preciso, cercò di non perdere l'equilibrio. Contro la parete, proprio sopra le fotografie, un lenzuolo bianco portava la scritta rossa «Morti per la libertà». Il giorno in cui tornò, si sedette sui gradini della fontana e si fermò a guardare. Di fronte a lui c'era tutta la sofferenza della sua città. L'aveva abbandonata per anni, lasciandola in balia degli invasori, dolente, forse in agonia. Era partito per rincorrere un ideale sbagliato nel modo sbagliato, e quando se ne era reso conto, era troppo tardi. Ma guardando quello spettacolo, ebbe la sensazione che la sua città avesse pur resistito. In qualche modo, era ancora in piedi. E come la città, le persone che la vivevano, un po' spaesate forse, ma in piedi. Si mise la testa tra le mani e chiuse gli occhi. Non aveva lacrime da piangere e nemmeno voce per urlare. Solo ricordi interrotti che lo tagliavano a pezzetti, senza nessun filtro, senza nessuna regola. Colpivano nel segno e restavano lì, ancore abbandonate su una spiaggia deserta. Il giorno in cui tornò, si massaggiò la gamba e riprese a camminare, questa volta a passo lento. La carezza e la mitraglia, legge Massimiliano Gollini. Febbraio 1944, giovedì, missione Pavlina, Elena. Il bosco era spoglio e solitario. La timida luce del mattino filtrava attraverso il denso strato di nebbia e colorava di rosa i fusti silenziosi dei castagni, i loro rami nudi, le radici che affioravano dalla terra nonostante la neve. Se guardava verso l'alto, goccioline di umidità le piovevano sul viso, disegnando rivoli che scendevano veloci fino al collo. Le piaceva la nebbia, era bello vedere il paesaggio attraverso quel setaccio, senza ombre, luce tenue. Si sentiva a casa. Non era mai stata più lontana da casa di così, eppure tutto le sembrava familiare. Gli alberi, le montagne, i casolari immobili e perenni, le rocce gialle di arenaria che si sfaldavano come sabbia. Spesso si chiedeva come aveva potuto vivere lontano da quei luoghi, ma non trovava risposte. Strisciò la mano sul tronco bagnato di una quercia e se la portò al viso. Percepì un odore forte, amaro e selvatico, molto diverso da quello del noce, che invece era dolce e delicato. Cercò nella mente l'immagine dell'albero che aveva in giardino, giù a Bologna, e la trovò con fatica. Restò immobile per qualche secondo con quella fotografia davanti agli occhi, poi iniziò a correre. Le mani che sferravano il terreno e l'anima il cielo, senza paura. Il bosco scivolava via con la sua aria sospesa, con il suo freddo da pieno inverno, con il vuoto lasciato dalle chiome nude degli alberi, spariti chissà dove. Il sole era un chiodo di luce. Correva, con la vita ingarbugliata, i ricordi sovrapposti, il fucile tra le mani. Sapeva dove erano i suoi compagni, li vedeva accanto a sé, ma non riusciva a sentirli mentre si muovevano. Coordinati e precisi, erano un branco di lupi a caccia nel bosco. Elena correva, dall'altra parte della vetta una strada, e sulla strada un convoglio, e sul convoglio armi, munizioni, esplosivi, e con un po' di fortuna, viveri. Correva, con il carcano stretto al petto e le labbra chiuse a morso, correva verso la guerra, a cercare i tedeschi. Quando giunse in cima al colle, dove i castagni disegnavano una linea retta appena prima del ciglio della strada, si sdraiò sulla pancia e si sistemò in posizione di tiro. Quella notte aveva deciso di vestirsi un po' più pesante del solito, prevedendo un lungo appostamento sulla neve. Aveva fatto bene. I due strati di maglione di lana e la lunga sciarpa che aveva fatto sua madre le coprivano il ventre e non lasciavano passare l'umidità che saliva dal terreno. Tirò indietro il berretto e alzò la sciarpa fin sopra il naso. Non voleva che dalla strada qualcuno notasse la condensa del suo respiro. Sistemò la striscia di cuoro che cingeva la spalla sinistra, poi si appoggiò contro il calcio di legno del fucile. Infine, compiendo un gesto che ormai era diventato un'abitudine, si tolse i guanti e legò più stretto il fazzoletto che aveva attorno al polso. Osservò la strada innevata che aggirava la montagna e spariva nella nebbia. Il paesaggio sembrava immutabile, il silenzio ovunque. Ghiaccio si sdraiò accanto a lei. «Ci siamo!» «Ci siamo!» disse Elena. L'uomo allungò il braccio destro verso la valle e disse «Laggiù, tra gli alberi». Ultimo stava posizionando il detonatore in un boschetto di castagni e non appena terminò il lavoro si sdraiò accanto a una roccia e si coprì con la neve. «Sì», disse Elena. «Quando sarà passato l'ultimo carro farà saltare la strada», disse Ghiaccio. Poi spostò il braccio verso destra. «Appena dopo la curva, li vedi?» le domandò. «No». «Bene. Misce nel bosco. Mezzanotte dall'altra parte della strada, nel fosso. Allo scoppio della bomba faranno partire le granate. Colpiranno il primo automezzo che passa. Di solito una macchina, forse. Io e Orso entriamo in azione dopo che tu avrai sparato. Va bene. Prendi come riferimento la curva e non sparare a destra e a sinistra della strada, altrimenti rischi di beccare i ragazzi. Aspetta a fare fuoco fin quando i tedeschi non sono usciti dai mezzi. Se sono troppi, non importa. Spara comunque». «Ho lo zaino pieno di munizioni», disse Elena. Poi si girò e tirò accanto a sé la sacca presa dalla cantina, insieme alle altre cose. L'aprì e mostrò a Ghiaccio i 10 caricatori. «Brava ragazza», disse lui. «A te quelli bastano per far fuori un esercito. Anzi, se vedi un fagiano, ci serve per pranzo. Contaci». Iniziò a aspirare aria fredda. Erano proprio in cima al colle e la corrente che arrivava dalla valle passava sopra le loro teste scendendo dall'altra parte attraverso il bosco. In un attimo la nebbia fu spazzata via e il paesaggio si definì davanti a lei. Guardò il cielo grigio. Pesanti nuvole nere correvano veloci, mentre verso est il sole stava cercando spazio oltre l'orizzonte. Senza dire niente, Ghiaccio si alzò e corse nel bosco dall'altra parte, proprio mentre Orso stava attraversando la strada. Si trascinava un ramo con il quale cancellava le orme lasciate sulla neve. Elena verificò se il fucile era carico. Appoggiò il carcano alla spalla e prese la mira. L'arma aveva solo un mirino fisso, senza cannocchiale, ma da quella distanza non avrebbe avuto problemi a colpire. Non era la sua prima missione. Però era la prima volta che doveva affrontare un numero così alto di tedeschi e che la vita dei compagni era nelle sue mani. Chiuse gli occhi e ascoltò il rumore del vento. Passava tra i rami come un sussurro, la tranquillizzava, ispirò profondamente e solo quando si sentì pronta li aprì. In fondo alla valle un convoglio di 6 automezzi militari stava risalendo la montagna. Aveva appena superato la casa della località Pioppe, imboccando la strada che saliva ripida. Si arrampicavano con fatica, con i diesel che pompavano e la neve che attutiva il rumore dei motori. Guardò i veicoli uno a uno nel mirino del fucile spostando adagio la canna. Passò dalla macchina che era alla testa della fila alle 3 camionette con il telo chiuso. Dovevano trasportare i rifornimenti che stavano cercando e a giudicare dalla scorta che si portavano dietro dovevano essere preziosi. A chiudere il convoglio c'erano 2 blindati con i cassoni scoperti e in ognuno di essi 2 file di 6 soldati accovacciati uno all'altro per ripararsi dal freddo. Li fissò concentrata. 24 giovani in cerca di guai. La bomba esplose poco dopo. Il rumore, atteso, arrivò in ritardo. un rimbombo tra le montagne, un denso fumo nero si alzò dalla curva e appena la polvere e la neve ricaddero al suolo, Elena vide che la strada era franata verso valle. Come avevano previsto, la carovana non si fermò, anzi, provò ad accelerare l'andatura, ma non fece in tempo a guadagnare velocità. Piovero granate da quattro punti diversi. Le vide partire una a una, spesso a due per volta. Ne piovero almeno 10, lanciate anche da ghiaccio e orso. Colpirono la macchina e la prima camionetta, facendone esplodere la cabina di pilotaggio. Tutto si arrestò, in attesa che i rimbombi si zittissero. E fu proprio in quel momento che i soldati scesero in tutta fretta e si guardarono attorno in cerca di punti di riferimento. Si disposero su due file ai lati del convoglio, mentre un gruppetto raggiunse la testa. Tutta la scena venne avvolta da un profondo silenzio. Era come se gli alberi e le montagne trattenessero i suoni stonati dalla guerra, per non farli arrivare fino a lei. Spostò lo sguardo al centro del convoglio. Un ufficiale era nascosto tra gli automezzi e accanto a lui due soldati gli coprivano le spalle. Urlava ordine al vento. Nonostante i tedeschi si fossero raggomitolati, Elena si vedeva attraverso i finestrini della camionetta che stava loro davanti. Inspirò profondamente e trattenne il fiato qualche secondo. Lo faceva sempre. Poi inquadrò la testa dell'ufficiale e iniziò a sparare. Un colpo. L'ufficiale cadde in avanti, la faccia sulla neve e parte del cranio, poco più in là. Ricaricò. Un colpo. Centrò il secondo soldato alla base del collo, proprio sotto l'orecchio. Finì contro il muso della camionetta, poi rovinò a terra lentamente. Ricaricò. Il terzo soldato si era girato verso di lei mettendosi di profilo. Un colpo. Lo ferì alla spalla sinistra, ma non lo uccise. Il proiettile si conficcò nella neve lì accanto. Ricaricò. L'uomo si gettò a terra e tentò di infilarsi sotto il camion. Un colpo. Lo prese alla schiena, appena sopra l'osso sacro. Le gambe iniziarono a tremare, poi si fermarono. Alla testa del convoglio c'erano tre soldati inginocchiati in posizione di tiro. Stavano guardando ovunque in cerca dei partigiani e muovevano i fucili in maniera frenetica. Iniziò da quello più a destra. I colpi furono veloci e ravvicinati, amplificati dalle montagne. Ne uccise due in successione, spostando il fucile ogni volta verso sinistra, rimanendo concentrata sul mirino. Quando ricaricava, il bossolo in uscita dall'estrattore le rimbalzava contro il polso protetto dal fazzoletto per poi cadere a terra. Continuò a sparare, ma quando arrivò al terzo soldato non c'era più. Aprì entrambi gli occhi e lo vide arrotolarsi sulla neve accumulata nel fosso accanto alla strada. Avrebbe potuto colpirlo facilmente, ma a mezzanotte sbucò dal nulla e aggredì il ragazzo da dietro. Lo uccise con una coltellata alla gola. Fu così rapido che Elena non riuscì a distinguerne i movimenti. Elena prese dallo zaino un caricatore, sganciò quello ormai vuoto e con un colpo deciso del palmo destro lo infilò nel fucile. Poi tirò la leva di carico. Il susseguirsi dei rumori metallici le fecero venire la pelle d'oca. Ogni volta era la stessa cosa, fin dal primo momento, fin dal primo proiettile. Riguadagnò la posizione corretta. Lo scenario stava cambiando. Entrarono in azione gli altri compagni. Ne vide tre, per prima cosa. Ultimo aveva lasciato la sua posizione nel boschetto e avanzava a schiena bassa costeggiando la strada, tenendo lo Sten davanti a sé e sparando raffiche ravvicinate. Poco dopo lo raggiunse mezzanotte. Corsero insieme per qualche metro, poi si gettarono nel fosso cercando un riparo da cui continuare a sparare. Si muovevano insieme e da quella distanza le sembrò di vedere una sola persona e la sua ombra. Dall'altra parte Misha stava sparando con la pistola. Le pallottole sembravano uscire dalla neve. Era impossibile prevedere la loro direzione. In quella prima fase dell'azione caddero 11 tedeschi. Era passato solo qualche minuto. I soldati superstiti avevano ripiegato tra i due autocarri più grandi. Molti si erano infilati sotto gli automezzi, sdraiandosi dietro le grosse ruote invernali e sparando da lì verso il lato sud, proprio dove erano nascosti mezzanotte e ultimo. Elena si accorse che nel punto in cui si trovava lei non poteva intervenire, così decise di muoversi. Guardò verso destra, cercando di ricordare la strada percorsa da ghiaccio poco prima. Erano solo una trentina di metri, ma tutti allo scoperto. Aspettò che i tedeschi riprendessero a sparare, poi si alzò e iniziò a correre. Teneva la schiena bassa e il fucile sulla mano sinistra, quasi a sfiorare la neve. Cercava di non guardare verso valle, un po' per paura di vedere un tedesco mirare verso di lei, un po' per il timore di inciampare e rotolare fin sulla strada. Restò concentrata sul sentiero, seguendo le orme di ghiaccio senza pensare, solo con l'urgenza di arrivare nel bosco e quando raggiunse gli alberi si gettò in avanti sulla neve. Era ancora tutta intera. Rotolò sulla schiena e poi di nuovo sulla pancia, allungando in avanti il carcano e guadagnando una posizione abbastanza comoda. C'erano due soldati sdraiati a terra tra i camion. Stavano sparando verso valle, riparati dalle ruote. Ne incontrò uno e sparò, colpendolo proprio in mezzo alle scapole. Il ragazzo si mosse appena, poi si appoggiò al suolo e restò immobile. Il camerata vicino si rese conto della situazione e si girò verso il bosco, guardando nella direzione sbagliata. Elena fece appena in tempo a vedere nel suo sguardo un'espressione sorpresa e impaurita. Lo colpì in mezzo alla fronte, ricaricò il fucile e riprese a muoversi. Poco più avanti vide delle rocce spuntare dalla neve. Se le avesse raggiunte, avrebbe guadagnato una visuale migliore per colpire altri tedeschi. Decise di avanzare e quando arrivò si accorse di essersi avvicinata a non più di 20 metri dal nemico. C'erano almeno 10 soldati nascosti davanti a lei. Sparavano tutti nella stessa direzione, ma da lì non riusciva a rendersi conto di cosa stava accadendo dall'altra parte della strada. Prese la mira e fece fuoco, colpendone 4. Poi si riparò dietro le rocce, aspettando l'arrivo degli spari. Fu come se una tempesta di grandine la colpisse senza sosta, un volume di fuoco che non poteva immaginare. Si raggomitolò con la schiena contro il grosso masso di granita, abbracciandosi le ginocchia con entrambe le mani e aspettando il peggio. Una forte esplosione fece tremare il suolo scoperchiando la botola che portava all'inferno. Si portò via tutto. Non sentì lo spostamento d'aria solo perché la roccia la riparava, ma fango, acqua, lamiera e chissà cos'altro le piombarono addosso ricoprendola, quasi sotterrandola. Ebbe l'impressione che tutto fosse sommerso da un lungo suono vattato e sottile. Aprì gli occhi, ma vide solo ombre in movimento. Poi iniziarono ad arrivare le grida, ordini sparsi, lamenti. Distinto, allungò la mano dietro la schiena, prese un nuovo caricatore e sostituì quello vecchio. Rotolò a sinistra un paio di volte, uscendo dalla copertura delle rocce e guadagnando una visione completa della scena. Là, dove c'era la camionetta, la bomba aveva aperto una voragine nella strada. L'automezzo era stato sollevato, ricadendo poi su un fianco, schiacciando un numero imprecisato di soldati. Altri erano stesi a terra, caduti nel baratro. A pochi metri da lei, un braccio e una gamba spuntavano immobili. Vide orso e ghiaccio ripararsi nel bosco sulla sinistra. Da lì iniziarono a sparare verso la testa del convoglio, dove probabilmente altri soldati avevano trovato riparo. I colpi arrivavano anche da destra e questo la rassicurò. Era la posizione di ultimo, mezzanotte miscia, e dal volume di fuoco era certa che fossero tutti e tre vivi. Si pulì il viso dal fango e cercò di sistemarsi meglio, di capire se era tutta intera. Quando tornò a guardare il convoglio, si accorse che 4 soldati stavano correndo verso di lei. Cercavano di sfruttare il caos dell'esplosione per scappare seguendo l'unica via di fuga possibile. Non l'avevano vista, altrimenti avrebbero sparato, ma presto le sarebbero state addosso. Se si fosse mossa, sarebbe stato un bersaglio facile. Doveva fare fuoco, doveva essere veloce e precisa. Mirò al petto, sparò e ricaricò e urlò e sparò e ricaricò e urlò ancora. Quando la videro, l'espressione sui loro volti scivolò dalla paura alla rabbia. Non riuscirono a raggiungerla. Caddero uno dopo l'altro, l'ultimo a 2 metri da lei. E poi ci fu il silenzio. Tutta la scena aveva una sua spietata bellezza. Un'aura tipica che sembrava avvolgere le colline e i partigiani. Elena vide i compagni avanzare uno a uno da direzioni diverse, le armi in posizione di tiro, gli sguardi bassi, forse un po' stanchi. Si alzò, raccolse il carcano, verificò che fosse carico e si incamminò verso le camionette. Fece solo qualche passo prima di accorgersi che qualcosa non tornava. Non capì subito, ma guardandosi attorno si accorse di una voce che le stava chiamando. Un suono che stonava d'arresto. Uno stridio sotterraneo. Lanciò di lato il fucile, prese dalla tasca la Walther e corse in avanti. Passò tra i cadaveri, superò l'eco degli spari, delle grida, delle esplosioni ormai lontane, superò il silenzio che seguì la fine del combattimento e corse ancora in quel paesaggio silenzioso. Raggiunse il primo soldato che aveva colpito, il più lontano da lei, e si fermò a gambe divaricate, proprio sopra il suo petto immobile. Lo guardò con attenzione mentre il respiro le pompava aria gelida nel sangue. Un messaggio era arrivato a una parte sconosciuta del suo corpo e lei l'aveva ascoltato. La guerra l'aveva rapita. Aspettò scrutando il soldato con attenzione. La divisa, l'aquila della Wehrmacht con la svastica, l'elmetto ammaccato nella parte sinistra. Aspettò finché ghiaccio e orso la raggiunsero e le appoggiarono una mano sulle spalle, fin quando gli sentì dire che era tutto finito. Aspettò anche dopo l'arrivo di Misha, ultima mezzanotte. Si erano sistemati attorno a lei e la guardavano senza aprire bocca. Aspettò fin quando, finalmente, l'uomo si mosse per prendere fiato e spalancare gli occhi. Ecco, l'attimo di orgoglio in cui ci si accorge di aver ragione. Aspettò il momento giusto, poi gli sparò. La carezza e la mitraglia. Legge Nicole Vighi per Sblocco 5. Martedì, ore 15:18. Anima. La ragazza guardò la montagna e cercò di scorgere qualche movimento sui declivi che portavano alla vetta. Si immaginò lassù quei campi verdi, stesa a guardare le nuvole in movimento, a respirare quell'aria pulita e fresca, bagnandosi la schiena con l'umidità dell'erba. Ecco un'altra cosa per la quale aveva combattuto. La sua terra, quei luoghi, quelle montagne. Tutto apparteneva alla gente dell'Appennino e nessuno avrebbe mai potuto portarglielo via. Il giovane soldato stava risalendo la china senza una direzione precisa. Camminava guardandosi gli scarponi con le spalle ricurve in avanti. Treneva tra le braccia il suo fucile mitragliatore e lo stringeva come un pescatore stringerebbe le fune di una rete, ma questa volta la preda era lui. Da quella distanza Anima lo avrebbe colpito a occhi chiusi, solo ascoltando il suono dei suoi timidi passi. Provò un po' di compassione per quel ragazzo. Le possibilità che fosse costretta a ucciderlo erano alte, ma diversamente da quanto era successo nei 2 anni precedenti, qualche scrupolo adesso l'aveva. Era solo un ragazzino, un giovane uomo catapultato nel bel mezzo di una guerra che molto probabilmente non capiva e che sicuramente non avrebbe combattuto se avesse potuto scegliere. Aveva tutta la vita davanti, tutte le possibilità di comprendere le cose, di studiare, di farsi una vita, di veder cambiare il mondo e di pentirsi. Nel frattempo, però, era lì e aveva un ruolo. Era dalla parte sbagliata della barricata e lei lo guardava attraverso il cannocchiale del suo Mosin Nagant. Mentre puntava al ragazzo, aprì l'occhio destro e sbirciò il casolare. Si accorse subito che l'atmosfera era cambiata. L'aia era deserta e gli automezzi se ne stavano immobili al centro del piazzale. Dopo gli spari, i tedeschi avevano alzato la guardia e posto 3 soldati nel fienile. Altri militari erano affacciati ad alcune finestre della grande casa, con i fucili in posizione di tiro, mentre una pattuglia si era infilata nel bosco sul lato sud. Erano tutti in allerta, ma i nazisti stavano concentrando le ricerche sul lato sbagliato, ingannati dall'eco che era arrivato dal corno alle scale. Guardò la vecchia montagna e, inclinando leggermente il capo in avanti, la ringraziò. Senza lasciare la posizione di tiro, prese con la mano destra la pistola e la sistemò a terra accanto a sé. Poi riabbracciò il fucile, chiuse l'occhio destro, appoggiò il sinistro sul cannocchiale e mirò la testa del ragazzo. Si stava avvicinando ai cespugli di ginestra e presto si sarebbe reso conto che gli spari erano arrivati da quella parte della montagna e non da dove tutti avevano immaginato. Anima cercò di riprendere una respirazione normale. Pensò che dopo tutto aveva la situazione sotto controllo e almeno, per ora, non era in pericolo di vita. Era in una posizione privilegiata, nascosta tra i cespugli e con il bosco alle spalle. Le sarebbe bastato un attimo per dileguarsi tra gli alberi e sparire per sempre. Eppure rimase lì, a guardare il soldato risalire la collina. Dopo qualche minuto, il ragazzo arrivò ai cespugli e si fermò. Appena vide il camerata morto, si inginocchiò, guardandosi attorno spaventato. Anima lo vide tremare. Allungò la mano verso il corpo, riverso a terra, e lo scosse un po'. Quando si accorse che non si muoveva, iniziò a trascinare in avanti, cercando rifugio tra le genziane, ma si fermò subito. Appoggiò il mitragliatore a terra e trascinò i due corpi fuori dai cespugli, sistemandoli accanto all'altro. Poi guardò verso valle. Anche Anima spostò lo sguardo sul casolare, senza mai staccare la mira dal militare. Nessuno si era accorto di niente. La distanza e la convinzione che i partigiani fossero sul lato opposto aveva distratto i tedeschi. Fu in quel momento che il ragazzo si comportò in modo inaspettato, iniziando a frugare nelle tasche dei soldati. Anima non riuscì a capire cosa trovò, forse qualche soldo o qualche oggetto inutile alla sopravvivenza, qualche sigaretta, magari un lusso a cui lui non poteva accedere. Infilò tutto nelle tasche, poi si portò dal lato dei cespugli e uno a uno trascinò i corpi al riparo. Rimase fuori dalla sua vista qualche minuto e quando ricomparve era in piedi e si stava dirigendo verso di lei. Fece solo qualche passo, ma si fermò subito, poco dopo il faggio. Aveva visto qualcosa tra l'erba. Quando si girò per tornare indietro, Anima si ricordò di aver lasciato lo zaino ai piedi dell'albero. Ripensò alle cose che ci aveva sistemato dentro: il cibo, l'acqua, i caricatori di riserva per la pistola. Non era per il contenuto, ma quello zaino rappresentava una sua traccia, qualcosa di riconoscibile, ed era anche qualcosa di suo. «Hai capito il cinno?» pensò. «Timido, timido, ladro, ladro». I tedeschi però non li capiva. Magari in tempo di pace non si sarebbero comportati in quel modo, ma aveva visto cose in quegli ultimi mesi che rendevano difficile immaginare che ormai non fossero corrotti dentro. «Forse i bambini», si disse, «saranno uomini diversi». «Forse». Ma pensò anche che sarebbero stati figli di quei padri. «Cosa fai?» si domandò. Il ragazzo aveva iniziato a camminare in diagonale, dirigendosi verso il bosco, proprio dove era lei. Valutò le scelte a sua disposizione. Ucciderlo, adesso, poi fuggire nel bosco, oppure aspettare. Dalla posizione nella quale si trovava, aveva una buona visuale della finestra e non c'erano ostacoli tra lei e il casolare. Era almeno 50 metri più lontano, ma ampiamente entro il suo raggio di tiro. Se il ragazzo non l'avesse vista, avrebbe potuto sparare all'ora stabilita. Prese il Mosin Nagant e lo nascose tra i cespugli, assicurandosi che foglie o terra non entrassero nella camera di scoppio. Poi si raggomitolò, impugnò la pistola e aspettò. Il ragazzo si fermò a 2 metri. Appoggiò il mitragliatore a terra e si guardò attorno. Poi si inginocchiò e iniziò a tirare fuori dalle tasche il bottino che aveva appena rubato. Anima riconobbe un coltello, diversi pacchetti di sigaretta e un rotolo di soldi di carta, così grosso che il soldato riusciva a stento a stringere in una mano. C'era anche un sacchetto di tela pieno di qualcosa che lei non vide, ma dall'espressione incredula del tedesco intuì che fossero dei preziosi. I 3 soldati morti dovevano essersi portati dietro il loro bottino di guerra, trafugato nel corso degli anni. Il crucco si girò e si mise a sedere con la schiena appoggiata a un albero. Estrasse dallo zaino una frettella di castagne e iniziò a mangiarla con aria soddisfatta. Dopo un paio di bocconi, beve un lungo sorso di acqua e buttò tra i cespugli la borraccia ormai vuota. Non poteva fare a meno di guardarlo, annichilita dall'ennesima situazione indescrivibile. Si chiese quanto di quella vita le sarebbe rimasto dentro negli anni a venire. Era una domanda assurda da farsi di 3 cespugli, con un tedesco a pochi metri e con la propria vita nelle mani del destino, ma la sua mente volava, come aveva sempre fatto. Il giovane gettò l'ultima frettella tra l'erba e si alzò, raccolse la refultiva e se la sistemò nelle tasche, nascondendo i soldi e il sacchetto di tela nei due stivali. Poi prese il mitragliatore e si girò verso valle, tenendo lo zaino per gli spallacci di cuoio. Aveva l'aria serena e soddisfatta. Dal suo punto di vista era stata una buona giornata, di quelle che in guerra non si vivono spesso. Ma il giorno non era ancora finito e ciò che successe dopo gli fece cambiare umore. Forse era stata la luce o un riflesso o una foglia sollevata da un colpo di vento, chi può dirlo? Si guardarono come due ex amanti il cui amore si era tramutato in odio e restarono lì immobili per un po'. Tra i loro sguardi brillava la canna del Water P38 puntata dritta al cuore del ragazzo. La carezza e la mitraglia. Leggono Paolo Cerruto e Clarita Sistilli. Stella Rossa non riusciva a portare a termine. Lo scopo era quello di colpire il bersaglio grosso e poi sparire nel bosco. Si formò all'inizio di novembre 43 e da allora portò a termine missioni pericolose che rallentarono l'espansione tedesca tra quelle vallate. Il nome non lo scelsero loro e nemmeno gli fu dato dai compagni partigiani. Furono i tedeschi. Das Rudel, così li chiamavano. Quando Mischa il russo sentì quel nome per la prima volta si sorprese parecchio. La Rudel Taktik, la tattica del branco di lupi, era la tecnica con la quale i crucchi chiamavano gli schemi di attacco degli U-Boat utilizzati nel Mar Baltico e nel Mare del Nord contro la marina inglese. Un sottomarino individuava l'incrociatore nemico e lo seguiva, inviando dati di posizione, velocità e direzione al quartier generale della Kriegsmarine. Da lì, gli uomini di Karl Dönitz, comandante della flotta sottomarina della Marina Militare del Terzo Reich, rimbalzavano il segnale agli U-Boat vicini che iniziavano a far rotta verso la preda, comunicando tra loro e con il codice Enigma. Poi attaccavano tutti assieme, da direzioni diverse in maniera autonoma. Mischa aveva combattuto sul Don contro italiani e tedeschi e sarebbe andato anche a Stalingrado se solo non avesse deciso di seguire in Italia il comandante di un battaglione sbandato, che stava tentando di tornare in patria seguendo, con fatica, l'esercito tedesco in ritirata. Rimase con gli italiani, li convinse a lasciare andare i tedeschi e li guidò nella pianura scegliendo per loro la via più breve. Non ce l'avrebbero mai fatta senza di lui. Il comandante di quel gruppo di disperati era Ghiaccio. Veniva da un piccolo paesino in provincia di Milano e lavorava alle poste. Quando l'Italia entrò in guerra, fu mandato in Libia e da lì in Grecia, una sconfitta dopo l'altra. Aveva diretto i suoi uomini portandoli a casa tutti, come diceva sempre, ma l'esercito era capitolato. Poi fu mandato in Russia. Quando tornò in Italia, rifiutò la divisa e dopo l'8 settembre divenne partigiano. Girò per la cresta appenninica da Piacenza alla Romagna, fin quando il Partito Comunista non lo mandò in un paesino di montagna in provincia di Bologna, Cadi Germino. Lì conobbe Mario Musolesi, detto Lupo, comandante della Brigata Stella Rossa, e si fermò. In tutto questo girare c'era sempre Mischa che gli copriva le spalle. Il russo aveva imparato l'italiano e si era inserito alla perfezione nelle dinamiche della lotta partigiana, dimostrando una convinzione di cui Ghiaccio continuava a stupirsi. Fu con Miscia che creò il branco. Assegnò al russo la gestione delle strategie militari e reclutò tre partigiani. Il primo era Orso, un uomo immenso, con braccia e gambe tozze e robuste che sembravano tronchi e una chioma di capelli ricci e neri. Aveva due occhi fini e gote rotonde, nascoste da una fitta barba. Sembrava più una montagna che un uomo. Miscia l'aveva scelto dietro consiglio di Lupo, che lo conosceva da sempre perché erano entrambi nati su quelle montagne. Era l'unico del branco a conoscere ogni angolo di quelle vallate e ti avrebbe riportato a casa anche se si fosse svegliato all'improvviso in una notte di nebbia in mezzo a un bosco. Ti dava quell'impressione lì, Orso, di sapere sempre la direzione giusta. E poi c'erano due gemelli, Ultimo e Mezzanotte. Il primo lo chiamavano così perché tartagliava così tanto che in un discorso riusciva a dire la sua solo quando gli altri erano già passati ad altri argomenti. Si diceva in giro che fosse un po' ritardato, perché Mezzanotte, che era nato per primo, mentre usciva gli aveva tirato un calcio in testa. Ma Ultimo non era ritardato, era solo in ritardo. Dal canto suo, Mezzanotte non stava mai zitto. Parlava per sé e per il fratello. Sapeva sempre quello che Ultimo stava per dire e lo diceva al suo posto. Venivano da Premilcuore, un comune sulle montagne in provincia di Forlì. Avevano affinato le loro capacità militari nell'esercito e conosciuto ghiaccio in Grecia. Erano giovani rispetto agli altri, ma non giovani come Elena. Mezzanotte era l'esperto dell'arma bianca. Con un coltello in mano faceva di tutto ed era così silenzioso che riusciva ad arrivare a un metro dal nemico senza che questi se ne accorgesse. Ultimo, invece, era il bombarolo. Poteva far crollare un ponte con un petardo. Il segreto provava a dire la quantità di esplosivo, interveniva a Mezzanotte. Ma dove lo metti? Ogni tanto Elena si guardava nello specchio fissato all'anta centrale del vecchio armadio, in una delle stanze al piano terra, nel loro rifugio, e quasi non si riconosceva. Con un paio di forbici trovate in un cassetto si era tagliate i capelli, che adesso le arrivavano poco sotto le orecchie, dandogli l'aspetto di un maschiaccio in cerca di guai. Aveva un fazzoletto rosso attorno al collo e uno viola al polso, una giubba verde di feltro rammentata alla meglio sui gomiti, una camicetta marrone sotto un maglione verde scuro a trecce grosse, un paio di pantaloni infilati dentro le calze di lana, gli scarponi di sua madre. Non si toglieva mai il fazzoletto che aveva sotto il mento, se lo metteva alla perfezione tutti i giorni. Gliel'aveva dato Silvano, senza dire niente, regalandoglielo, legandoglielo al collo poco prima di salutarlo. Sapeva bene cosa significasse per lui quel pezzo di stoffa rossa, anche se Elena non era lì per fare politica, lo aveva lasciato fare e ci era affezionata. Era arrivata a Marzabotto con la corriera la mattina dell'8 novembre 1943, dopo la sparatoria al carcere di San Giovanni al Monte. Trovò Orso ad aspettarla. Era così impaurita e ansiosa che non riuscì a dire niente, nemmeno il suo nome, e poiché l'omone era la persona più taciturna che avesse mai incontrato, il tragitto a piedi che li condusse in cima alla montagna fu silenzioso come il bosco che li circondava. D'altra parte Silvano era stato chiaro, parla solo con un uomo che si fa chiamare Ghiaccio. Giunsero a Cadigermino, quando il sole era già alto, anche se si vedeva a tratti, nascosto com'era dai rapidi nuvoloni viola che portavano l'inverno. Era stanca e frastornata, e tutto le sembrava procedere a velocità rallentata. C'era una vecchia casa e persone indaffarate a distribuire armi ad altre persone, che si guardavano attorno con occhi molto simili ai suoi. Sul lato destro dell'edificio, un gruppo di 10 ragazzi ascoltava un uomo sulla cinquantina con in mano un fucile. Anche se non sentiva la sua voce, intuiva che stava mostrando ai partigiani com'era fatta quell'arma e come si dovesse usare. Sul lato opposto dell'aia, dove un gruppo di piccole case in sasso si ergeva vicino al bosco, c'erano dei bambini seduti su un muretto che guardavano quella scena divertiti, come se si trattasse di un gioco. aveva l'impressione di trovarsi dietro una parete di vetro. Percepiva l'atmosfera frenetica e tesa che c'era nell'aria, ma non riusciva a interagire con l'ambiente nel quale si trovava. Nonostante si sforzasse, le era difficile dare un significato alla scena che aveva davanti. Quando lo vide, lo riconobbe subito. Non poteva sbagliarsi. Aveva ancora quell'odore sulla pelle. Così, quando il partigiano che l'aveva spinta a combattere si avvicinò, gli chiese solo: «Sei tu, Ghiaccio?». Qualche giorno dopo ricevette il suo fucile, un Carcano Mod 91, senza baionetta in dotazione al Regio Esercito, passato per un paio di guerre. Per decine di mani inesperte, trafugato dagli arsenali del centro, giù a Bologna, durante l'azione di qualche mese prima. Arrivato a lei senza preavviso. In un momento diverso della sua vita avrebbe guardato con sospetto tutta quella situazione, quelle armi, il suo fucile, ma adesso aveva la sensazione di essere proprio dove era necessario che fosse. La sera in cui se lo trovò tra le braccia per la prima volta, quel fucile le parve di fuoco. La luce della fiamma si rifletteva sul metallo brunito e sul legno di frassino del calcio. E a Elena sembrò che fosse vivo. Non sapendo bene come tenerlo, lo strinse come se fosse un gatto e subito ricevette una scossa di adrenalina che si trasformò rapidamente in euforia. Le sfumature di quel sentimento furono impossibili da distinguere. Si era immaginata quel momento mille volte, ma la realtà fu molto meglio. Fu Ghiaccio a portarglielo, in una piovosa sera di inizio dicembre. «Oh mamma!» disse tra sé e sé, ma lui la sentì. «Non ti ho mica portato quassù per fare la cameriera, con tutto rispetto per la categoria». Non riuscì a parlare, sorrise invece, ma senza guardarlo. Poi si passò il fucile sulla spalla sinistra e si mise in posizione di tiro, tenendo l'indice fuori dalla portata del grilletto. Chiuse gli occhi e si gustò al momento. «È troppo pesante per te?» «No». «Bene». «E così sei mancina?» «Sì». «Non l'avevo notato. Potrebbe essere un problema». «Perché?» «Il carcano è destrorso. La leva di carico è sulla parte destra e da lì esce il bossolo. È progettato per appoggiarsi sulla spalla destra. Se ti appoggi sulla sinistra, il bossolo ti arriva dritto in faccia». Allontanò il fucile e provò a sistemarselo sulla spalla destra, ma non si sentì a proprio agio. Riportò l'arma dall'altra parte e disse: «Sono mancina». «Ora vediamo, dai qua». Ghiaccio si tolse i guanti di lana e prese dalla tasca un caricatore che infilò con forza nel fucile. Poi tirò la leva di carico, infine se lo stese sulle ginocchia con la canna puntata verso il bosco e disse: «Canna, mirino, leva di carico, estrattore, caricatore, grilletto, sicura, calcio, non c'è altro». Indicava le parti del fucile con la mano stretta a pugno ed Elena notò che l'unghia del pollice era nera e spezzata. Con un gesto rapido e sicuro l'uomo sollevò l'arma e sganciò il caricatore. «Ecco qui», disse. «Sei colpi. Lo prendi da questo lato e lo spingi forte, così. Poi tiri questa leva e sei pronta». Girò la leva della sicura e diede l'arma a Elena. «Prova tu», disse infine. Tentò di sganciare il caricatore, ma si accorse che serviva più forza di quella che aveva immaginato. Quando riuscì a toglierlo dall'arma, guardò i proiettili. Erano lunghi e grossi, appuntiti. Li contò. «Sono 5», disse. «Uno è in canna». «Allora, se premo il grilletto, spara?» «No, perché ho messo la sicura». «Qui, rimettilo in sede». Aprì il palmo della mano e con un gesto ampio colpì la base del caricatore, che si incastrò nel fucile, con un rumore secco di metallo e guerra. «Perfetto», commentò Ghiaccio. «Cavolo», disse lei, «La vedi questa apertura?» chiese l'uomo indicando l'estrattore. «Sì. È da lì che esce il bossolo, quando carichi l'arma dopo aver sparato. Secondo me ti arriva dritto in un occhio». Lei ci pensò un attimo, cercando di vedere le cose da una prospettiva più lontana, poi disse: «Oh, posso sparare e poi staccare il fucile e ricaricare, così?» Parlò mimando il movimento. «Sì, è possibile», commentò l'uomo, «ma potresti non avere tempo per tutto quel movimento. Questo non è un fucile mitragliatore e devi ricaricare tutte le volte». La guardò con un'espressione seria e pensierosa. «Non so che dirti, però è un problema», disse ghiaccio. Soppesò nuovamente il fucile, reggendolo con entrambe le mani. Poi, girandosi verso l'uomo, disse: «Devo fare pipì». Avevano bisogno di un cecchino per completare l'organico. Poi il branco sarebbe stato operativo. Lei accettò il ruolo, senza pensarci, senza capire, facendo continui esercizi con il fucile, arrabbiandosi, piangendosi di nascosto, senza mai rassegnarsi. Ghiaccio e Misha le avevano preparato un poligono di tiro in una radura nel bosco, poco distante dal campo base. Avevano fissato su paletti di legno delle palle d'argilla cotte sul fuoco, grandi come la testa di un uomo, e posizionato i bersagli a distanze variabili. Il più lontano era tra gli alberi, oltre le case. Doveva prendere confidenza con il fucile e capire se il talento naturale per la mira poteva funzionare anche con il carcano. Poi bisognava risolvere il problema della ricarica. In effetti le era impossibile sparare colpi in successione e, come aveva previsto ghiaccio, ogni volta che ricaricava il bossolo le arrivava in faccia. Quindi doveva abbassare l'arma e avviare la procedura. Non andava bene, soprattutto in uno scontro ravvicinato. Dopo vari tentativi, si accorse che se avesse ricaricato con la mano sinistra anziché con la destra, il bossolo avrebbe rimbalzato contro il polso e non l'avrebbe colpita in faccia. Era comunque un movimento innaturale e aveva dovuto allenarsi parecchio per renderlo fluido. Si legò al polso un fazzoletto e alla fine divenne più veloce dei suoi compagni. Poi ci fu il problema del rinculo. Il calcio poggiava contro la ferita subita durante il bombardamento del 25 settembre 43, giù a Bologna. Quando sparava, un forte dolore le arrivava fino allo stomaco. Decise di provare con una camicia arrotolata e appoggiata sulla cicatrice. Quando capì che l'idea era giusta, si fece preparare un tutore. Era fissato direttamente sulla pelle, sotto la camicia. Avevano fatto mezzanotte ultimo usando un pezzo di cuoio tagliato da una vecchia sella, seguendo le sue indicazioni. Scendeva fino al seno, per poi avvolgere il torace sotto l'ascella sinistra. Era fissato con legacci di pelle un po' rudimentali, ma efficaci. Con quello, il dolore non spariva del tutto, ma almeno le permetteva di continuare a sparare. La mira invece non fu mai un problema. Già dalla prima sessione di tiro centrò tutti i bersagli, compreso quello più lontano. Vista la situazione, Ghiaccio e Misha rincararono la dose, aggiungendo la variabile tempo. Uno sparo ogni 2 secondi. Era una cosa faticosa, il dolore alla spalla si fece sentire sempre, ma con il tempo ci fece l'abitudine, e colpì bersagli anche in quel modo. Provò correndo, buttandosi a terra e rialzandosi. Provò a colpire oggetti in volo. Sparò ogni giorno fin quando la luce del sole le permetteva di vedere. La mira non fu mai un problema. Le ci vollero un paio di settimane, non di più. Poi il carcano diventò un prolungamento dei suoi stessi occhi. Arrivato al campo base, ghiaccio le aveva assegnato un pagliericcio in una stanzetta al piano superiore, dove avrebbe dormito da sola, unico privilegio dovuto al fatto di essere una donna. Tutte quelle novità la rendevano confusa e impaurita, incerta sul senso della scelta che aveva fatto. Non riusciva a mettere in ordine i pensieri. In una notte più inquieta delle altre, decise di alzarsi e uscire all'aperto, in cerca di qualcosa a cui non sapeva dare un nome. Il buio era assoluto. Elena pensò di trovarsi in una dimensione diversa, fatta di freddo e silenzio, assenza di colori, nessun movimento. L'inverno, che in città doveva ancora arrivare, sulle montagne era già deciso, e anche se non c'era neve, sentiva l'erba congelata scricchiolare sotto gli scarponi. Si abbracciò le spalle e appoggiò la schiena al tronco di un albero. Si dondolò per molto tempo, cercando di ragionare, di capire le emozioni accelerate che provava da quando era partita. Era la solitudine il sentimento più difficile da combattere. La mancanza di amici, soprattutto, perché ancora non aveva familiarizzato con i suoi compagni. Riuscì a calmarsi solo quando individuò, nel caos che aveva in testa, l'immagine di Odino. Le sorrideva, aveva lo sguardo sereno e le tendeva una mano. Era proprio come averlo lì a pochi passi. Pensò che se non fosse partito per l'Africa, l'avrebbe convinto a rifugiarsi in un luogo sicuro come quello, dove aspettare la fine del conflitto. Ma senza combattere, perché quando erano insieme non c'era spazio per l'odio. Si strinse ancora più forte e lasciò che una lacrima scivolasse lenta giù per la guancia. Arrivarono Ghiaccio e Misha. «Cosa ci fai qui fuori?» chiese Ghiaccio. Non li aveva sentiti. Quando si girò, la stavano guardando da qualche metro di distanza. Tirò su con il naso e si asciugò il viso, sperando che il buio impedisse loro di vedere che stava piangendo. «Respiro», sussurrò. I due la presero a braccetto, uno da una parte e uno dall'altra, e la accompagnarono un po' più lontano. Raggiunsero un abete abbattuto e lì si sedettero, con Elena al centro. La casa quasi non si vedeva. Era buia e immobile, e la si sarebbe potuta scambiare per una grande roccia caduta dal monte milioni di anni prima. «L'abbiamo chiamata Tezola», disse Ghiaccio. «Tezola? Da qualche parte, non ricordo dove, ho sentito qualcuno che chiamava Tezola una capanna. Mi piaceva». «È il nostro campo base», disse Misha. Elena guardò la Tezola come se la vedesse per la prima volta. «Appena dai un nome alle cose, loro ti mostrano l'anima». Senza smettere di guardare la casa, si fece coraggio e accettò il dialogo. «Come vi siete conosciuti voi due?» chiese. Ghiaccio lanciò un sorrisetto a Misha, poi iniziò a raccontare. «Dopo la Grecia mi hanno mandato in Russia, insieme ai miei uomini. Avevamo ancora l'equipaggiamento per l'Africa. Lì è stato un tormento, una grande disfatta, e per questo preferisco non parlarne. Ti dico solo che per non sbandarci ci siamo aggregati a un battaglione della Wehrmacht. Mentre ci stavamo ritirando siamo entrati in un villaggio nel quale c'era Misha con i suoi uomini. Eravamo più numerosi e i tedeschi ben armati. Così abbiamo combattuto e abbiamo vinto. Siccome i Crucchi avevano paura di essere raggiunti dal grosso dell'esercito russo che arrivava da est, se ne sono andati, lasciandoci indietro e ordinandoci di fucilare tutti. Ma noi non l'abbiamo fatto». «E tu l'hai seguito fin qui?» chiese lei rivolgendosi a Misha. «Sì», rispose il russo. «Mi sono innamorato». «Vai a cagare», disse Ghiaccio. Misha si sporse all'indietro e tirò un forte colpo sulla schiena di Ghiaccio. Colpì anche Elena, che quasi cadde in avanti. Poi iniziò a raccontare la sua versione. «Appena i tedeschi se ne andarono, venne da me Ghiaccio e mi fece capire che ci avrebbero lasciato andare. Dovevi vederli, quattro disperati vestiti di stracci dispersi nella tormenta. Ovunque stessero andando non ci sarebbero mai arrivati. Allora li abbiamo guidati noi. Loro ci avevano salvato la vita e noi l'abbiamo salvata loro. Quando ho saputo che da queste parti si poteva ammazzare ancora qualche tedesco, ho mandato a casa i miei e sono rimasto con lui. Ed eccoci qui». «E questo quando è successo?» 11 febbraio 1943, dissero i due uomini in coro. «Parli bene l'italiano, Misha. Noi russi siamo molto intelligenti. E avete un ego grande come la Tezola». Ghiaccio si fece una risata e Misha diede una gomitata a Elena, facendola finire contro la spalla dell'altro. «Posso chiederti una cosa, Ghiaccio?» «Vai». «Hai detto che sei stato in Africa?» «Sì». «Dove?» «Nord Africa, Libia, ma ci sono stato poco. Ci hanno trasferito in Grecia e poi la Russia». «Ovunque sei stato le avete prese», disse Misha. «Sei uno sfaticato». «E tu un comunista», lo rimproverò Ghiaccio. «Puoi ben dirlo». «Perché ti interessa?» le chiese Ghiaccio. «Un ragazzo che conosco è andato in Abissinia», disse. «Addis Abeba, Nessuno rispose. Così lei continuò. Beh, insomma, non è proprio un ragazzo qualunque. È partito nel 1939. L'ho conosciuto da ragazzina. Poi l'hanno chiamato per la leva. Si chiamava Odino. Che ruolo aveva nell'esercito? Le chiese Misha. In una lettera mi ha detto che usava la radio. Allora era un radiofonista, intervenne Ghiaccio. In marina si chiamano marconisti. Mi piace di più. Mi ha mandato una foto, stava lì con la sua radio a ridere come un imbecille. L'ho odiato. Perché? Faceva il suo lavoro. Disse Ghiaccio, guardandola severo. Lei non se ne accorse. Non doveva partire, continuò. Guarda come sono andate le cose. In generale, dico, se non partiva era la stessa cosa. Restarono in silenzio a guardarsi attorno. Ognuno aveva la propria storia e ogni storia portava a diversi pensieri. Se non fosse partito, avrebbero tradito la patria, disse Ghiaccio dopo un'eternità. La conquista dell'impero era una possibilità concreta. Detto così è strano, ma tutti noi abbiamo abbandonato le nostre famiglie per la guerra. Non abbiamo combattuto per Mussolini o per Badoglio o per Graziani. Abbiamo combattuto per l'Italia. A pensarci adesso sembra una vaccata, ma questa è la realtà dei fatti. E nel 1939 la cosa giusta era non tirarsi indietro. E il tuo Odino ha fatto solo il suo dovere. Beh, ragazzi, intervenne Misha, io ho iniziato a combattere per salvarmi il culo. Oh, grazie, Misha, disse Elena ridendo. Adesso che lo so mi sento meglio, molto meglio. Comunque, lì per lì, non l'ho capito. Stavamo così bene. Bologna sembrava una città infinita con noi dentro. I due uomini si guardarono, ma Elena se ne accorse in ritardo e non riuscì a decifrare il loro sguardo. E chiese, scusa Misha, perché prima parlavi al passato? Quando? Rispose lui evasivo. Mentre parlavi di Odino e mi chiedevi cosa faceva nell'esercito, perché parlavi al passato? L'uomo non disse niente. Dopo un po' parlò Ghiaccio. Che notizie hai di lui? Dipende. Da cosa? Da cosa intendi per notizie? Ghiaccio ci pensò su, poi disse. Hai ricevuto altre lettere? Hai controllato nelle liste? Ti è arrivata qualche informativa dall'esercito? Hai letto i giornali? Notizie? La conversazione era arrivata laddove il terreno si faceva paludoso. Se l'aspettava. Non si tirò indietro, ma voleva essere certa di raccontare tutto affinché i due uomini potessero capire, e ci provò in qualche modo. C'erano le lettere, tante. All'inizio arrivavano senza censure, poi con qualche taglio, e nelle ultime non si capiva niente. Se non sbaglio, siamo entrati ad Addis Abeba senza neanche combattere. Com'era il tono di quelle lettere? Domandò Misha. Non era più tranquillo. Era arrabbiato? No, non direi. Deluso? Ho avuto l'impressione che fosse deluso. E quando ha smesso di scrivere? Chiese Ghiaccio. Nel 1941, quando sono arrivati gli inglesi. E da lì più niente? Niente di scritto. Mi dispiace molto, Elena, ma non si sono salvati molti dall'Etiopia. E quelli che ce l'hanno fatta sono stati deportati in Sudafrica. Non si sa più niente di loro. Non Odino, cioè? Non è nella lista dei morti e neanche in quella dei dispersi. E non è in Sudafrica. E tu come lo sai? Perché lo vedo. Lo vedi? Cioè, lo sogni? Cioè, io vedo. E so che sta tornando. Ha disertato. E quando arriverà troverà un'Italia libera. Perché noi la libereremo, vero? Su questo non ho dubbi. Misha prese Elena per la nuca e la scosse un po', con delicatezza. E io nemmeno, confermò. Poi aggiunse. Mia nonna, Irina, faceva le sedute spiritiche, vedeva i morti. Tutti venivano a casa per sapere dei loro morti. I defunti davano consigli, raccontavano di altri defunti. C'era tutto un mondo, oltre al nostro, nelle mani di mia nonna. Ma Odino non è morto. Se lo dici tu, Elena, a me sta bene. A me pure, intervenne Ghiaccio. Davvero? Perché no? Mi basta che tu sia tranquilla. Io non sono tranquilla per niente. Allora mi basta che tu faccia il tuo dovere, e un po' di più, e lo farò. Perfetto. Ascolta, Elena, disse Ghiaccio dandole un colpetto con lo scarpone. Ognuno di noi del branco ha un motivo per combattere diverso da quello che tutti gli altri partigiani hanno. Fidati di me. C'è l'odio per i nazisti, la voglia di liberare l'Italia, certo, ma per noi c'è dell'altro. Qualcosa che ci spinge a stare in prima linea. Di solito ce lo teniamo per noi, lo custodiamo dentro di noi. Qualunque esso sia, forgia il nostro coraggio. Noi dobbiamo sbandierarlo in giro, altrimenti le braccia si spengono. Dobbiamo proteggerlo e dobbiamo farlo da soli. Viviamo in un mondo allo sbando, dove si uccide per sopravvivere, e noi svolgiamo compiti che per tutti gli altri sarebbero degli incubi, se non avessimo un motivo in più, giusto o sbagliato che sia. Non ce la faremmo mai. Disse così Ghiaccio, in quella fredda sera di novembre, poco prima che l'ombra della guerra oscurasse il campo visivo di Elena. Lei non poteva capire, non in quel momento, non prima di aver provato quello che avrebbe vissuto da lì a qualche mese. Nonostante tutto, assorbì quelle parole come se fossero le prime udite in vita sua, sentendole passare attraverso la pelle, entrare in circolo insieme al sangue. I tre rimasero lì per un po', senza aggiungere altro, e poi Ghiaccio fece un cenno con la testa a Miscia e i due si alzarono insieme, allontanandosi verso la tezzola, ed Elena rimase di nuovo sola. Nei mesi successivi le era capitato spesso di pensare a quel primo periodo della resistenza e si rendeva conto che proprio non se l'era immaginato così. Diviso in due da una lama spietata e violenta, da un lato la guerra, dall'altro l'amore. Le missioni, l'addestramento per diventare il cecchino che era adesso, il primo uomo ucciso, ma anche gli ideali per i quali combatteva, i bambini nelle scuole di montagna, la foresta, gli animali, le nuvole basse, Albertina, il ricordo di Odino. Eppure il passaggio a quella vita era stato così necessario e immediato che Elena non si rese mai conto degli sforzi per adeguarsi alla nuova prospettiva. Aveva avuto l'impressione che il tempo fosse scivolato via a una velocità diversa. Spesso si era chiesta se fosse quella la velocità del tempo, una volta arrivati all'età adulta, o se era proprio la vita dei boschi ad accelerare, trasportando gli uomini in una dimensione più vicina a quella degli animali. Era stato un periodo difficile dove tutto era inaspettato e incerto. Aveva eseguito gli ordini con precisione e pazienza, cercando di inserirsi nel branco senza scardinare equilibri consolidati, trovando spazi propri tra le fessure lasciate libere dai compagni. Poi c'era stata la missione Pavlina, e da quel momento tutti avevano iniziato a guardarla in modo diverso. Uno degli ostacoli più duri da superare fu vivere passo passo con la miseria. La situazione di estrema povertà nella quale vivevano gli abitanti di quelle colline era qualcosa di cui aveva solo sentito parlare. In città, anche dopo le misure restrittive che il governo fascista aveva imposto, si trovava sempre il modo di avere ciò che serviva per vivere. Ma lì era diverso. I campi erano divisi in fondi e i mezzadri li lavoravano giorno e notte, ricavando a stento quello che serviva per sfamare tutti. Erano famiglie molto numerose in cui tutti vivevano assieme. Nonni, figli, nipoti, zii. Sembravano crescere di numero ogni giorno. In vita sua non aveva mai visto famiglie così numerose. Ingenuamente si era chiesta perché continuassero a fare figli, visto che del raccolto per il quale lavoravano tutto l'anno conservavano solo una piccola parte. Vederli tirare avanti in quelle condizioni la rendeva triste e agguerrita. Chissà perché proprio lì, tra quei luoghi desolati, doveva consumarsi quella parte di guerra. Non fu difficile rendersi conto che il territorio sul quale combattevano era già al limite della sopportazione. I montanari, oppressi e impauriti dalle restrizioni imposte dai tedeschi, dagli umori rissosi dei repubblichini e dalla continua mancanza di cibo e di prospettiva, davano l'impressione di poter cedere da un momento all'altro, minando il delicato equilibrio che si era costruito tra loro e i partigiani. sorgevano malumori ovunque ed erano in pochi ad aver sposato la causa con convinzione. I più, preoccupati per le sorti delle loro famiglie, sopportavano la presenza dei guerriglieri come si sopporta il lento incedere di lungo inverno. Dall'inizio dell'anno gli alleati avevano iniziato a paracadutare generi di sussistenza e armi, cercando di sostenere la resistenza con la prospettiva concreta di sfondare la linea gotica in estate. Ma la brigata Stella Rossa si stava gonfiando come il petto di un gallo da combattimento, e alla fine mancava sempre qualcosa. I partigiani erano giovani che non avevano ancora l'età giusta per la chiamata di leva, oppure renitenti o ex soldati sconfitti. I più arrivavano proprio da quelle montagne, spinti soprattutto dall'istinto di sopravvivenza e dalla paura dei tedeschi, e solo qualcuno era veramente motivato da ragioni quali la rivalsa, la conquista della libertà o lo spirito comunista. Per qualche motivo Elena si sentiva fortunata perché aveva la possibilità di combattere con il Branco e non con la Stella Rossa. Le missioni che affrontavano erano più pericolose, ma sapere di avere attorno dei professionisti la rassicurava. Quando poteva, Elena si arrampicava sulla quercia dietro la tezzola, spinta dalla necessità di lanciare lo sguardo lontano. La vista da lì aveva dell'incredibile. Riusciva a contare fino a 14 catene montuose. Ognuna aveva una tonalità di verde sempre diverso e un modo del tutto particolare di avvicinarsi al viola. In quei momenti chiudeva gli occhi e scagliava l'anima oltre il confine, oltre le montagne, oltre quelle nuvole bianche. Sorvolava le pianure toscane, seguiva il dorso degli Appennini trasportata dal vento e raggiungeva il mare. Così se lo immaginava Elena al mare. Una cosa che non finisce, un ricordo persistente, là sullo sfondo. L'orizzonte è una fregatura, pensava. Combattere e amare, vivere in difesa e poi resistere. Riapriva gli occhi e riprendeva a respirare. Il 25 aprile 2020, Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus, trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini, la storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate, da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. Terza puntata della Carezza alla Mitraglia finisce qua. Ci risentiamo domani alle 21 sempre su Radio Virus per la quarta puntata. Buon 25 aprile a tutti. Yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty.